Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, lei svolge una funzione sociale e lei sostanzialmente non ha fatto altro che aggrapparsi al decadimento culturale di questi ultimi anni dell'Italia, né più né meno. Allora Parenzo, io veramente non ce la faccio, non ce la faccio più. Giornata storica oggi. Vogliamo dire Urbi e Torbi innanzitutto che tu oggi hai avuto la patente alla tenera età, alla tenera età di quanti, dillo tu, quanti? 39 anni. Di 39 anni il signor David Parenzo con un ritardo direi ventennale, con un ritardo ventennale. Sì, come la sinistra, un ritardo come quello della sinistra nel un ritardo capire ventennale il libero mercato. Acquisisce oggi il diritto di guidare una macchina. Attento. Col cambio. Grazie. Però ringraziamo l'autoscuola Flaminia. No, ma ringraziamo che pubblicità l'autoscuola Flaminia. No, sei impazzito. L'autoscuola, sei impazzito. Ringraziamo Carmelo, il grandissimo Carmelo, che è quello che mi diceva piano a Barè, ma che cazzo stai a fare? No, piano, però io dico piano. Una cosa, possiamo dire a questo punto intanto è tutto prescritto, no? È tutto prescritto. Sì. Diciamolo agli amici della polizia, ecco, agli amici dei carabinieri e magari a qualche giudice, ai tuoi amici. Diciamo, io in questi 20 anni più volte ho guidato la macchina. No, ma diciamolo! Ma è una balla! Ma come no? Io t'ho visto anch'io. Ma che più volte ho guidato una macchina. O più mai! Ma diciamolo! Ma diciamolo, l'ho mai fatto! Ma possiamo dirlo, guarda! Ma possiamo dire una stupidaggine mega galattica! Possiamo ma non è dirlo vero. Tranquillamente, ma senza assicuro, problemi. Giuro che, non è, giuro che non è così. Vabbè, d'accordo, non è vero. Vabbè, dobbiamo fare finta che non sia così. Vabbè, d'accordo. Comunque. Ma non è, ma perché devi diffondere? La notizia storica è questa. La notizia è: se ho preso la patente io a 39 anni, possiamo sconfiggere il califfo, amici miei! Possiamo sconfiggerlo al Baghdadi! Non so che relazione ci sia, però. Ti prego. In Italia ci sono ancora persone. Ci sono ancora gente, devi dire. Sì, ci sono ancora gente che pronunciano queste frasi. C'è una signora che si chiama Dina Nerozzi. Dina Nerozzi. Una psichiatra, la quale è contro le unioni omosessuali, contro le unioni gay, il matrimonio omosessuale, la quale dice: io ho affetto per il mio cane. Questo in Parlamento, hanno fatto delle audizioni. Io ho affetto per il mio cane. Ma che significa? Cioè, l'affetto per il cane, secondo la signora Nerozzi, è uguale all'affetto che si può provare tra uomo e uomo, tra donna e donna. Signora Nerozzi, che forse deve pensare all'ISIS, al califfo, quando pensa a queste cose. Forse si troverebbe a suo agio insieme al califfo. Vabbè. Oh, torna in edicola Charlie Hebdo. Applausi. Dopo 50 giorni di stop hanno raccolto 30 milioni di donazioni. Caccia nuovi vignettisti. Sempre feroci, mi raccomando. Mi raccomando, non mi deludete. Su Maometto, non mi deludete. C'è un Gasparri scatenato su Renzi, sentiremo più avanti cose incredibili. No, ha scritto delle cose pazzesche. Incredibili, dice che si dovrebbe vergognare per sì, il padre. Cioè. Ma tutto ha origine perché da che cosa? Da questa intervista di Renzi a Lucia Annunziata. Allora, io devo dire la verità. Renzi, perché gliene frega di fare battute su Gasparri? Mica è Crozza, mica siamo al cabaret. Deve fare la battuta su Gasparri presentando Gasparri come l'esempio dell'anticultura, come quello che non ha letto niente, cioè proprio l'ignorante italiano. Magari molti di voi sono d'accordo, cioè la fotografia dell'ignoranza italiana è Gasparri. E dunque una legge che ha come oggetto la RAI non può avere come suo autore il signor Gasparri. Questo è il senso della frase di Renzi, eh? una cosa che è il motore dell'identità educativa e culturale non può essere normata da una legge che si chiama legge Gasparri. Per definizione, se è identitario, educativo e culturale, non può essere basato sulla legge Gasparri. La detto devo questo, riprendere perché non si può dire una cosa del genere, è offensivo questo, quello no, che per quale dice motivo? Di io ritengo, Gasparri, ma no, no, ma che offensivo? Vabbè. Ma persino l'ha annunziata, devo dire la verità, persino annunziata che con Gasparri ha una, come dire, un conflitto perenne negli anni, ha ripreso Renzi dicendo, beh insomma, perché lo possiamo dire noi possiamo insultare, Trozza, possiamo attaccare, possiamo essere anche volgari, possiamo essere anche ineducati, dobbiamo esserlo, anzi dobbiamo essere. Da contratto. Ma il signor Presidente del Consiglio che si mette a dire che quello è ignorante. Vabbè, gli è sfuggita una battuta, si poteva fare a meno, gli è sfuggita la comunque, battuta, vabbè, però quello che ha scritto poi Gasparrone non è tanto ne parleremo, da meno, ne parleremo dopo censura, ha detto tutto che è figlio pure di un massone, appunto, dando al padre, dai, del massone, eccetera, ma che vergogna, ma come si fa a scrivere quelle robe lì così, dai. E meno male che il Papa doveva essere a favore del mondo gay, dei trans, eccetera. Che cosa ha detto qualche giorno fa? Ha detto che i trans distruggono la creazione, sono come la bomba nucleare. Ah, ragazzi. Però, ragazzi, la cosa più bella che ho sentito in questo weekend è Pannella, è Marcone Pannella, dai. Pannella che candidamente ammette di avere un figlio, forse due. Tra l'altro dice, io voglio proteggere la privacy, ma è come, hai detto tutto. Ha detto tutto, è figlio, forse è figlio di una signora, è figlio di una napoletana ma francese, col cognome francese, codice che non fiscale H52532F, che era sposata all'epoca, sposata, quindi forse il figlio, per proteggere lui, ma proteggere da lei, una cosa pazzesca, dalla partitocrazia. Dai, sentiamo. Se potevi fare un figlio, ti manca un figlio? Io? Ah no, dicevo farlo io, non fare un no, quello no. Beh, devo dire semplicemente. Ti è mancato, ti manca. Che coloro che mi conoscono sanno che qualche figlio c'è in giro. Ah sì? Ma non so c'è chi se c'è armato. Uno o più d'uno? Questo è uno. Quello siamo sicurissimi. Un altro non sono sicurissimo che era mio, non del marito. Ah, ecco. Poi altro non so. Ma come altro non sai? Beh, è una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Una donna napoletana col cognome francese, la mamma lo sa, era sposata, poi a un certo punto dice l'ho concepita in piedi in mezzo agli alberi. Ti giuro, questa non l'abbiamo sentita, ma siamo andati a recuperarla noi. In piedi in mezzo agli alberi, senti. Bene, io posso dire che in realtà quello del quale parlo per me l'abbiamo concepito, non solo io ma anche l'altro, anche se eravamo in piedi e ci eravamo trattenuti vicino al campo Artiglio di Roma, ci stavano i begli alberi la sera, eccetera. Vabbè. Ma dai, su, una cosa spettacolare. Numero poi uno. Diceva, conoscevo il marito pure. Non era solo una scopatina, così dice, guarda, senti. Era consapevole che fosse grave, che non fosse la scopatina, uh-huh. Così. Poi successe che il marito, eravamo qualche, ci conoscevamo bene. Il marito era grave. Certo, ma subito dopo, in fondo è venuto fuori, credo, una confessione al loro interno. Ah. E poi appunto non ho seguito la cosa. Beh, i figli di Pannella, faremo un appello più avanti, sentirete, sì, che venga fuori a questo punto, che venga fuori questo figlio di Pannella. Ragazzi, però io non ce la faccio. La signora Brambilla, deputata di Forza Italia, Maria Vittoria Brambilla, sì, animalista, sì, neomamma, eccetera eccetera, o forse ancora deve partorire, adesso non mi ricordo, si è fatta fotografare con in braccio una nutria. Ti giuro, una nutria, è un topo orrendo, sì, è un orrendo topo, no. Io lo dico, è un orrendo topo. Cioè, ma se sì, non esistessero questo cazzo di inutile, sarebbe meglio. Ma sarebbe meglio. Questo non, sì, non, sì, non, sì, sì, sì, sì. Ma non ti cambia la giornata, allora, però. No, dire, non è che penso alle inutili. Da qui a io non ho questo odio. Allora, tuo, no, odio, io non è odio. Beh, allora, la signora Brambilla ha scritto: lei è Maraia, non so Maraia, dare un nome alla nutria. Come si fa a dare un nome a una nutria? Come Maraia Carey, no? Una nutria dolcissima. Diciamo basta le crudeli stragi di nutrie che gli amministratori locali continuano a mettere in atto in tutta l'Italia. Non accettiamo che vi siano animali considerati di serie B o addirittura nocivi. Difendiamo anche la nutria. E no, cara amica mia, io riprendo l'insegnamento del professore Gentilini a riguardo. Il professor Gentilini, ex sindaco di Treviso. Le nutrie, io ho detto che saranno la piaga d'Italia, come le piaghe d'Egitto. Ecco, quindi vanno eliminate tutte quante. Io ho cercato in tutte le maniere, ma ci sono gli animalisti che se le portano a letto, hai capito? Le adottano. Pensa in che mondo siamo. Beh, ma che se... Eccolo qua un esempio. Ma abbiamo con noi Red Ronnie. Buonasera. Bene. Buonasera, ciao. Ciao Red, adesso poi parleremo pure delle nutrie, perché sono sicuro che tu sei dalla parte, no, della Brambilla, sicuro, liscio come l'olio. Non è già possibile. Già lo prevedo, liscio come l'olio. Non è possibile. Come no? No, la Brambilla fa delle cose molto belle e importanti per gli animali, però questo ostentare a me non è mai piaciuto, come le persone che si mettono nude per dire che non devono, non bisogna prendere le pellicce, sono ostentazioni. Io sono molto per le cose più naturali, ad esempio ieri sera a Roxy Bar. Fatto. Abbiamo avuto un medico, una dottoressa che sì. No, di quelle normali, di quelle, la cui figlia piccolina chiamando. Arriva a casa e dice: io scusa Marco, sono in diretta alla radio. Parenzo, fai parlare Red un attimo. Chi se ne frega di Malcolm Pagani che ti chiama? Scusami, volevo... se te lo dico. Ma scusami un attimo, abbi saluta pazienza. Malcolm Pagani. Ma però, non me ne frega niente, siamo in diretta. Ma mi ha chiamato, poverino, gentile. Ma è stato. Vabbè, guarda, scusami, dai, basta. Forza. Malcolm, scusa, allora, devo chiudere. Ieri sera una professoressa che la cui figlia è arrivata a casa piccolina e ha detto: mamma, io per rispetto agli animali non li mangio più. Lei è andata in sbattimento perché dice: come farà con le proteine, con tutte queste cose? Poi ha scoperto che in realtà si vive molto meglio e si previene la malattia, e ha parlato degli interessi delle industrie farmaceutiche nel far star male la gente, perché così le cura. Ecco, io sono per queste però cose. Però ho capito, molto più ma le nutrie, non mi dire che anche tu sei, come dire, pensi che le nutrie non bisogna toccarle. Ma no, io penso che gli animali non vadano uccisi e penso che l'uomo abbia fatto dei casini ambientali. Sì, ma le nutrie, Red, le nutrie, ma tu hai idea che cosa sono le nutrie? Le nutrie distruggono gli argini, fanno delle cose pazzesche. Cioè, bisogna intervenire alcune volte con le nutrie, non si possono, sono topi orrendi, sono orrendi topi. Va benissimo, per carità, non è che bisogna. Cioè, non sei d'accordo sul fatto che bisogna ucciderli? Non sei d'accordo. Io non sono d'accordo che ci bisogna uccidere le zanzare, ho avuto anche un dibattito con Enrico Ruggeri su questo come fatto, no, quindi immagini come delle no. Nutri, tranne noi però, tranne noi. Le zanzare, ah beh già che l'hai visto quello lì, perché come no, certo. Parlava anche di voi. E quindi... Come no, certo. Senti una cosa, ma tu come amico personale di Gino Paoli, amico personale, sei rimasto un po' deluso da questa vicenda o no? No, no, perché mi dispiace molto per lui, nel senso che, sai, io sono abituato a guardare i film, sì. Certi film dove ci sono dei complotti, di queste cose, sì, sono sì. abituato a leggere Tex Willer, quindi non ti faccio citazioni auliche, Tex Willer, dove sì. dietro, quando c'è un avvenimento, io mi chiedo sempre perché esce fuori, al sì. di là del fatto se c'è stato o non c'è sì, stato, sì. e vado a leggere sempre fra le righe. E allora io so quello che Gino Paoli sta facendo come presidente della SIAE. E cosa è chiaro facendo? Che questa beh, come presidente della SIAE sta facendo cose molto importanti, ne parlavo anche con Caterina Caselli sabato. Quindi cose molto importanti anche, ad esempio, è chiaro che ci sono delle multinazionali che non pagano sì. i diritti, contro cui lui si sta battendo. Sì. Con la SIAE ha aiutato la sua città Genova. Allora, se il risultato di quello che è successo è che sì. lui si dimetta dalla SIAE, io dico a chi giova? L'altra domanda aspetta. Che mi faccio è questa. Allora, dicono, sì. perlomeno per ora le indagini, che lui avrebbe preso dei soldi in nero dalle feste dell'Unità sì. e li avrebbe portati in Svizzera, sì. giusto? Beh, è lui che lo dice nelle intercettazioni, non è che lo dicono, cioè ci sono delle allora intercettazioni. Io mi chiedo questo, perché il mostro è Gino Paoli e non la festa dell'Unità? Lo sapevo. Cioè, io mi chiedo sempre, quando c'è un se c'è un reato... No, ma saranno mostri tutti e due, cioè non è che solamente sia quelli che hanno dato i soldi non facendo fattura, e no, sia quelli... A red, cioè rosso... Aspetta un attimo, c'è il traffico, poi abbiamo tempo. Io voglio capire dopo questa roba qua. Red ha detto che Giro Paoli si batteva contro le multinazionali, eccetera, eccetera. E dunque, secondo lui, alcune cose non escono casualmente, cioè non vengono fuori casualmente, al di là del fatto che sia vero o no, cioè vengono portate sui giornali, vengono tirate fuori per bloccare qualcuno. Dunque una specie di complotto contro Gino Paoli, così immagina Red. Attento al DDT, sai? So you think you'll take another piece of me to satisfy. È in onda con noi qui alla Zanzara il grandissimo Red Ronnie, che devo dire la verità, Parenzo, con Roxy Bar sul web, a mio parere sta anche un po' rivoluzionando il mondo della comunicazione, perché la vicenda di Vasco Rossi, grandi ascolti, sì, eccetera, sì, eccetera. Questo non c'è dubbio. Allora, cioè, si può fare comunicazione anche in un altro modo, e questo nonostante il fatto che spesso abbia avuto qui litigi, diverbi, discussioni, eccetera, eccetera. Riconoscere. Bisogna dargli in atto. Allora, dopodiché ha detto una cazzata, ma non importa. E vabbè, adesso vediamo se ha detto una cazzata. La cosa che immagina Red Ronnie è un complotto contro Gino Paoli. Ecco, dimmi la verità, Red. Ma io faccio un'ipotesi, nel senso che sono fatti noti, ad esempio, che Berlusconi può essere innocente o colpevole, io non mi schiero da nessuna parte. Dopo che è caduto questo famoso patto del Nazareno, improvvisamente è tornata di nuovo i processi, i problemi di Mediaset, eccetera. Quindi è chiaro che Gino Paoli era noto che stava facendo un importantissimo lavoro alla SIAE, un importantissimo lavoro per rimettere in sesto la SIAE dopo anni in cui tutti lo sanno, non è che la SIAE sia una dei soldi in Svizzera, che c'entra con questo? Però uno potrebbe dire, scusami, allora stava facendo questo lavoro e allora qualcuno ti dice ha costruito un complotto contro di lui. Diciamo che c'è un interesse che Gino Paoli smetta di rompere le palle con la SIAE. Ho capito, però scusami, ma i soldi in Svizzera c'erano o no? Questo è il punto, cioè si è portato i soldi in Svizzera. Tra l'altro, nelle intercettazioni che sono uscite nei giorni scorsi, clamorose, lui dice delle cose esplicite, cioè dice dobbiamo riportare questi soldi in Italia perché altrimenti sarebbe un danno per la mia immagine, che è una cosa ancora più clamorosa di quelle che sono uscite. Sai, io ti dico questo, intanto ti dico una frase che non l'ho detta io, ma è abbastanza famosa: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Primo, io che sono senza peccato, perché io mai portato un euro all'estero, mai portato un euro all'estero, io che sono senza peccato non la scaglio la prima pietra, perché io giudico le persone da come si comportano. Gino Paoli è una persona meravigliosa, è una persona che ha sempre aiutato senza chiedere, quindi io giudico le persone improvvisamente è un artista clamoroso, non è un caso che Il cielo in una stanza o Senza fine siano considerate tra le canzoni più belle mai scritte nel repertorio italiano. Allora io dico è successo qualcosa? Non lo so, ma io non glielo chiedo neanche. Però scusami, uno potrebbe dire, Red, tu che sei una persona, fino a prova contraria, onesta come siamo tutti, se non abbiamo che non abbiamo carichi penali, che non abbiamo mai vaso un euro, eccetera, eccetera, difendi Gino Paoli perché è amico tuo. È la classica difesa, è come ha fatto Grillo. A girare il giorno del suo 80° compleanno, io ancora me lo ricordo, girare le immagini insieme a Beppe Grillo, insieme ad altre persone. Tu difendi sostanzialmente un amico. Questo è il punto. No, io difendo una persona perché so com'è, è diverso. Vabbè, sai com'è, ma non puoi sapere i segreti di quella persona, perché capito? Cioè, tu non credi. Ma i segreti, ma ti ripeto, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io giudico una persona da com'è umanamente e dalle cose che fa. Vabbè, ho capito, ma ti fa anche onore che da amico difendi, va bene, ma. Ti fa anche onore, per carità, perché sei un amico e non tradisci la tua amicizia. Il nostro amico Gino Paolo, che rimane un cantautore straordinario, si è portato i soldi in Svizzera, deve pagare. Ma rimane un grande cantautore. Io collaboravo con Pavarotti quando successe tutto il casino che successe. Alla fine in pratica aveva ragione lui, ma avevano bisogno di capri espiatori importanti. Cioè potrebbe essere un capo espiatorio secondo te? Ma ogni tanto hai bisogno di colpire qualcuno famoso per far vedere che fai qualcosa. Ho capito. Cioè, anche questo fatto. Cioè ci sono tanti fattori che intervengono, hai capito? Comunque ti ripeto, sì, da cittadino che non conosce Gino Paoli e da amico di Gino Paoli, questa cosa non cambia minimamente in me l'opinione che ho di Gino Paoli, l'opinione che ho del suo operato. Ma anche dopo le cose che anche le cose che abbiamo sentito sulle intercettazioni, ho bisogno di riportare indietro i soldi dalla Svizzera per la mia immagine, eccetera, eccetera. Certo, soldi... certo. Ma magari, sai, devi anche considerare una roba. Tu trovami ma tu ci credi? Tu ci credi? Tu trovami un artista, un artista che non sia stato fregato da un commercialista, da un qualcuno sui soldi, rubati, non ce n'è uno. Beh, però troppo facile, troppo facile così. Allora, molte volte gli artisti, arriva quello, io ho detto, seppi dire di no, perché avevo lavorato in banca, ma anch'io ho avuto un faccendiere che è venuto da me e ha detto stai guadagnando parecchio. Io mi ricordo il commercialista di Jovanotti che gli fotte un sacco di soldi anni fa, cioè, me lo ricordo perfettamente. Quindi gli artisti sono abbastanza vulnerabili in questo campo. No, ma questo è vero, perché spesso non si occupano dei soldi e affidano i loro soldi. Molte volte fanno delle firme e dicono vabbè, o se dici tu no, guarda un c'è rischio, ti preoccupa, fanno delle robe. Dopodiché è interessante il discorso suo che dice se ha detto questo devo riportare in Italia per salvaguardare l'immagine. Ma perché lui ha bisogno di immagine? Perché sta facendo un lavoro molto importante e lo sta facendo la SIAE, perché io so quanto lui tenga. Ho capito, ma tu pensi veramente che ci sia qualche multinazionale che gliela voglia far pagare? Ma sai, io non lo escludo. Nella storia ho visto un aereo, mi hanno detto che è esploso un aereo con sopra Mattei, nella storia. Ma questo anche l'11 settembre qualcuno pensa che non sia avvenuto, però. Ma l'11 settembre è avvenuto perché è avvenuto, però diciamo che... Tu dici che non sono gli aerei che sono andati a sbattere contro le Torri Gemelle? No, sono gli aerei che sono andati a sbattere contro le Torri Gemelle, dipende chi tu dici che se lo sono fatto gli americani? Ma sai, quanti film abbiamo visto dove ci sono anche addirittura all'interno della CIA... persone che agiscono in una determinata maniera per avere altri interessi. È chiaro che è impossibile che un aereo vada a sbattere contro le due torri e dopo un'ora ci vada un altro aereo. È impossibile. Cioè, con i servizi di sicurezza che ci sono, è matematicamente impossibile. Come non esiste l'aereo che è andato contro il Pentagono, perché non è stato minimamente filmato da nessuno. Ti prego. Cioè, tu dici, come esistono queste cose qui, possono esistere anche i complotti contro Gino Paoli. Ma sai quanti film abbiamo visto? Il primo film Zenet, ti ricordi? Dove a una persona, siccome dava il fastidio, poi ci gli cancellavano, e ti sto parlando di 15 anni fa. Del whisky a Roxy. Vabbè, adesso sempre a pigliare per il culo, David. Ma non si può dire le Torri Gemelle così, ma che roba è? Una radio così importante. Ma dai, che c'entra? Su. Cosa c'entra? Non è radio ma Red, ti voglio bene, ma come fai a dire che se lo sono fatto gli americani? Non gli vuoi bene, non gli vuoi bene, non gli voglio bene. Perché voglio bene all'umanità, ma come si fa? E poi ci troveremo. Parenzo mi vuole bene come gli scozzesi vogliono bene agli inglesi. Va bene, del whisky. L'ha dichiarato lui. Ciao, Red, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Sempre un grande. Io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la zanzara. Sì, mi giochi lei, il curriano mi piace di più. Da Parenzo un po' meno, da Crociani mi potrebbe piacere, non detto che mi piace, mi potrebbe piacere. Crociani non offende mai nessuno. Epico scontro tra Alessandra Mussolini e Andrea Romano, adesso nel Partito Democratico. Sentite. Il partito democratico, di quale partito eri? Della scelta civica di Monti. Quello che ci ha fatto il rigore e che ci ha massacrato e parli così adesso me lo ricordo, adesso rimember. Guarda, Mussolini. Per tutto. Senti, Mussolini, e poi parla di Berlusconi. Io mi ricordo in quale partito eri te. Chiamava sì, partito. Io e sono fiera chiama, del chiama, partito che avevo guarda, io. Guarda. No, scusi signore, sì, prego. Quale partito, perché lo dice con un to, in quale partito fa che l'onorevole Mussolini era nel movimento sociale italiano, destra molto nazionale. Molto bene, caro, fiera di... bene. Io certamente, e tu stavi io con certamente... Monti, vabbè, tu ti devi vergognare, guardi, ma si vergogni lei, con ma la io non mi vergogno delle pensioni che l'ha ammazzate, tu guarda, e la Fornero, guarda, ensemble, 30 secondi. Tu vergognati, guarda, vergognati tu, onorevole io Mussolini. Sono fiera e orgogliosa di stare in Forza Italia. Pensa lei forse, alla Fornero e mandiamola in Libia. Lei forse... Caro PD, ma sei ossessionata. Neo. Guarda, ti caro ricordo una cosa. Neo PD, neo, che tu stavi neo, con che boh, neo, e senti, moralista e Rizzo ma lo è ossessionata, sa. Ma senti una cosa che mi è venuta in mente calmare. Adesso guardandoti. No, Monti dai, è stato nominato dai, senatore. Ma non te la prendere, comprendila con me. Guarda come mi parla sotto, vieni qua. È stato nominato senatore a vita. Vabbè, quindi dai, si prendeva lo stipendio del senatore a vita e anche quello del presidente con Monti, del Consiglio. Ma non te la prendere, Montino. Ma non si è preso una lira da presidente Montino. Del Consiglio. Non si è preso una lira da presidente del Consiglio. Sì, se posso li è presi e tu Monti, lo sai, bugiardo. Ma lascia perdere Monti. Io vorrei ricordare, caro Parenzo, quello che ha detto come Sgarbi. Lotta. Sgarbi venerdì scorso. Sgarbi venerdì scorso su Alfano, al di là della scelta civica? Sì, no, su Alfano, perché al di là di quello che ha detto sulla barcaccia, controcorrente rispetto a tutti, cioè ha detto che non ci sono danni ingenti, che è pronto a pagare lui la fattura, solo 2000 euro, che sì. Marino è un bugiardo, eccetera, eccetera. Ha detto una cosa su Alfano, non politica, perché si sa che Sgarbi, insomma, non ama, per usare così un eufemismo, non ama moltissimo Alfano dal punto di vista politico, però dice che è anche molto brutto, molto brutto. Hai visto quanto è brutto Alfano? Questo secondo me è una malattia, non può essere sano uno con una faccia così. Ma è tutto bitorsoluto, schifoso, malamente spelacchiato. Io spero che la barcaccia sia una buona ragione per farlo licenziare, però insomma sarebbe quasi ingiusto. Devo dire, pesantissima questa cosa qua. Alfano è talmente brutto che forse è una malattia. Forse qui ha un po' esagerato Vittorione. Poi dice anche, direi, a proposito delle oggettine, e pare che ce ne siano altre pronte a testimoniare di nuovo di fronte ai pubblici ministeri, magari per cambiare versione su quello che è successo ad Arcore, oppure sulle testimonianze, lo vedremo. Dice anche che la scopata non è reato. Beh, questa è una vecchia teoria sgarbiana, più volte professata qui alla Zanzara. Devono mentire sulle scopate, ma voglio dire, non è che la scopata sia un reato, è un reato indagare sulla scopata. Siccome sono tutte maggiorenni, danno la figa a chi vogliono, a pagamento gratis, e il magistrato che persegue questa cosa è un criminale. Danno la figa a chi vogliono. Oh, l'ha detto Sgarbi, mica l'ho detto io, Allora, nel weekend ho sentito una cosa incredibile della Boldrini, su cui sarai d'accordo, Parenzo. Abbastanza incredibile. Signora Boldrini sostiene che bisogna fare satira in un modo sostenibile. Cioè la satira sostenibile. Beh, cioè non l'energia sostenibile. La satira sostenibile. No, vabbè, come cazzo si fa ad avere un presidente della Camera che ci rompe i coglioni sulla satira, sul modo di fare la satira? Come si fa? Cioè dice fino a che punto non ci possiamo aspettare reazioni, così ha detto. E nessuno si è indignato poi. E questa è la cosa incredibile. Solo qualche amico in qualche giornale reazionario, cosiddetto reazionario, l'ha notato anche su Twitter. Fino a che punto non ci possiamo aspettare reazioni quando si ride di una religione? Cioè così ha detto, cioè ci possiamo aspettare reazioni quando si ride di una religione, così ha detto la signora Boldrini, divento pazzo. TG3. And now the headlines for News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Pronte le misure di Atene attese da Bruxelles, anche tasse su grandi patrimoni e armaturi, ma per Tsipras prime critiche per l'accordo con l'Eurogruppo. Accordo fiscale fra Italia e Svizzera, niente più segreto bancario per favorire gli evasori, 6 miliardi di possibili entrate e giovedì tocca all'Liechtenstein. Landini e lo scontro con Renzi, non farò politica ma ci vuole un soggetto che vada oltre il sindacato. Colloquio con Camusso, il leader Fiom, niente da chiarire. Elezioni in Veneto, nuovo scontro nella Lega tra Salvini e Tosi. Il leader boicottizzaia, Maroni con il segretario. La replica, a volte le distanze non si colmano. Le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha assolto l'Eternit e cancellato i risarcimenti. Capi di imputazione sbagliati e reati già prescritti. Nel Califfato, le tre minorenne inglesi convertite. La Francia comincia a sequestrare i passaporti dei potenziali combattenti, la portaerei De Gaulle nel Golfo Persico. E agli Oscar trionfa Birdman con 4 statuette, Moore e Redmayne migliori attori, all'italiana Canonero Oscar per i costumi di Grand Budapest Hotel. Allora andiamo in provincia di Ancona da Giovanni, buonasera Giovanni, vai. Buonasera a lei. Dimmi. Allora, senti Cruciani, io volevo intervenire sulle cazzate di Red Ronnie e su tutti questi complottisti del cazzo, non se ne può più. Ogni tanto mandate in onda quel deficiente di Mandalà, adesso quell'altro Red Ronnie. Io già sono disgustato a quegli stronzi che su Facebook scrivono che l'11 settembre è colpa dei sionisti, dei nazionisti, boiate simili. Adesso devo sentire queste stronzate qua. E ogni tanto sento delle boiate sulle abbiamo capito. Dunque, cosa dovremmo fare? Evitare di invitare. Andate a fare in culo. Mi tocca dare un'apparenza una volta ogni tanto. No, quando è che lo mandiamo a fare in culo? Io sempre, quando posso. No, lo però... mando. Oh, bravo. No, tu hai cantato una canzoncina prima, Parenzo. Ne ho patentato. Che cos'è che hai cantato mentre eri in onda Red Ronnie? E poi ci troveremo come. Cioè, per te ero ubriaco, secondo te. A bere del whisky a Roxy Bar, o forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i complotti e i suoi guai, ognuno con Gino Paoli oppure a New York a discutere se è stato Mohamed Atta. Matteo da Bolzano, vai. Matteo, ma dai, ma di che parliamo? Matteo, vai. Ciao. Allora, io volevo intervenire sulla questione delle nutrie. Sì. Secondo me non è possibile ancora nel 2015 dire di ammazzare queste povere animali. Ma perché adesso ci sono gli animalisti, il sole 24 ore, uno deve, ho capito, ci sono gli animali, la prevaricazione, cosa, scusa Matteo, cosa? Del più forte sul più debole. Ma che vuol dire più forte e più debole? Sono animali, le nutrie. E tu cosa sei? Non sei un animale. Ma smettila. No, non sono un animale, non sono un animale. Come no? Allora sei ignorante. Se dici una roba del genere, sei ignorante, perché tu appartieni alla genere animale. Sì, però Matteo, abbi pazienza, ci sarà una differenza tra Matteo da Bolzano e una nutria, o no? Assolutamente no. Ah, tu ti senti uguale a una nutria, allora sono cazzi tuoi. Se ti senti uguale a una nutria, sono cazzi tuoi, chiaro? Pensi essere più intelligente. Ma non è questione di essere più intelligente, a parte che sì, pur nei miei limiti, mi sento di essere più intelligente di una nutria, sì, pur nei miei grandissimi limiti. Sei fuori dalla storia. Ma sei tu fuori, tu sei fuori di senno, non dalla storia. Perché se trovi uno più forte di Cruciani, vieni lì e ti ammazza, ha ragione lui. No, però scusa, abbi pazienza. Certo, Matteo, le nutrie in ogni caso sono, in qualche caso, sono dannose per l'ambiente dove stanno, sugli argini, eccetera. Quanti colleghi dannosi hai tu dentro la radio? Non li fai fuori. Ma che c'entra? Dai, Matteo, che cazzate, che dici? Dai, fermo lì, aspetta che torno con te. Sono tempi duri, amici miei, siamo al flop. Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Allora, a proposito di oggettine, Parenzo, spunta fuori una novità che la signora Maristel Polanco, più volte ospite qui alla Zanzara, già da ottobre pare che sia pentita, cioè dire vuole cambiare versione sulla vicenda delle testimonianze, rubi, le serate, eccetera. Una versione che metterebbe nei guai Berlusconi, sì. Il quale è evocato con i suoi... Mi appassiona molto. Mi appassiona, a me le oggettine mi appassionano sempre. Ormai è finito, sia come personaggi, morto, sia dai, come personaggi. È tutto finito, no, chiuso. Ma non è finito, Berlusconi potrebbe... Oggi c'è Tsipras. Ma che Tsipras, meglio le oggettine che Tsipras, dai, ma di che vogliamo parlare? C'è Tsipras. Facciamo un sondaggio. Landini, meglio parlare meglio di la vicenda Landini che le oggettine. Beh, meglio Landini, certo. Pare che già da ottobre la signora Maristel Polanco si sia sia considerata, diciamo, una pentita, anche se è un termine improprio, e dunque voglia cambiare versione su Ruby, eccetera, difeso fino adesso la versione Berlusconi, forse perché è pagata, forse no, forse perché è corrotto, tra virgolette, questo lo decideranno i giudici. L'ex legale dice che si è dimesso perché in disaccordo col nuovo corso, dunque esisterebbe un nuovo corso di queste ragazze che io non chiamo prostitute. Utilizzavano il proprio corpo, come dice Sgarbi, utilizzavano il proprio corpo per guadagnarci sopra, per guadagnarci sopra. Andavano da Berlusconi, si facevano pagare per sesso, non per sesso, chi se ne frega? Chi se ne frega? Non è prostituzione, non è prostituzione. Vabbè, ma lasciamo perdere questo aspetto. Abbiamo cercato di capire se anche la signora Aris Espinosa, che non è, Parenzo, il signor Galli della Loggia. No, non è. Il signor Squi, cioè non è un intellettuale, no. Non è un economista. La signora, ma Aris, non ho capito, Aris è Espinosa, il nome? Espinosa, sì, Aris Espinosa. Ah, okay. Anche lei centroamericana, amica della Polanco. Abbiamo cercato di capire se anche la signora Aris Espinosa, abbiamo capito, come dire, sia pronta a vuotare il sacco. Ecco, questo. Dopo è. Però facciamo un ricordo di Luca Ronconi, che è stato un grande... Ma vai. No, neanche quello. Ma sì, ma per carità, ma scusa, ma che me ne frega a me? Ma fammi sentire Aris Espinosa, Luca Ronconi, con tutto rispetto. Dai, forza. Signora Espinosa? Sì? Sì, buonasera, qui il Sole 24 Ore. Volevamo sapere se è vero quello che si legge, che lei voleva parlare con la Boccassini come la sua amica Polanco. Mi dispiace, non posso parlare in questo momento. Cioè non rilascia dichiarazioni su questa cosa qui? No. No, perché siccome ho letto sul giornale che forse lei voleva parlare di nuovo coi giudici per la storia della falsa testimonianza, per quel processo in cui è coinvolta anche lei, volevamo sapere se era vero almeno questo. Mi dispiace, non posso parlare. Ma ci può confermare che vuole parlare di nuovo col giudice? Non confermo assolutamente nulla e, come ripeto... Però non smentisce nemmeno? Non posso parlare, mi spiace. Non può parlare, buonasera. Però può smentire di voler parlare col giudice? Non voglio assolutamente dire nulla, non posso dire nulla, no. Dunque la ringrazio, buonasera. Va bene, buonasera. Come si potrebbe dire, David? Hai notato quella voce curiale che ti viene quando parli? Ma no, ma l'ho fatta apposta. Sì, fatto. No, lo so, ma la voce curiale. Ma l'ho fatta apposta, è una voce. Sembra di stare a Radio Maria. No, ma l'ho fatta apposta. L'ho fatta apposta. Pronto? Sì, lo so. L'ho fatta apposta per invogliarla, certo, mica devo dire scusa, ma che mi dici se hai scopato con Berlusconi? Esatto, così uno si aspettava, invece mansueto, no, come una nutria. Ma che mansueto come una nutria, sì, smettila. Sì, sì. Non so neanche se le nutrie sono mansueto. Allora, Matteo da Bolzano ci vuole convincere del fatto... Ma chi è sta gente? No, ci vuole convincere del fatto che siamo come le nutrie, che noi ma siamo come le nutrie. Ma chi è tutta sta gente? Matteo, allora? Ecco, ascoltatore. Non è che siamo come nutrie, noi siamo, abbiamo gli stessi diritti delle nutrie. No, gli stessi diritti amico delle mio, no, amico come mio, no. C'è un comune a Cremone in cui il sindaco... Il cane della tua amorosa, se io vado lì e lo ammazzo... Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Certo. Se un comune vuole liberarsi, a parte che togli il viva voce o quello che sei, perché non si sente una mazza, Matteo, cerca di parlare senza viva voce, altrimenti mi incazzo come una bestia. Forza col viva voce, vai. Forza. Non ho il viva voce. Non ho vabbè, dove sei allora? In macchina, fermo che telefono. Allora, senta Matteo, il punto fondamentale è questo. Le nutrie ogni tanto vanno eliminate perché altrimenti rovinano gli argini. Non so che teorie ci sono, non mi interessa. E se io ti dico che vanno spostate, per esempio? Ma che spostamento? Lo spostamento delle nutrie, amico mio, lo spostamento. Le nutrie, qual è il problema? Amico mio. Ti spiego comunque, il tuo ragionamento nasce dal fatto che l'uomo è migliore degli animali e quindi quando decide di intervenire senza nessun tipo di remora. Allora, siccome io penso che Parenzo sia migliore di te, Parenzo ha il diritto di farti fuori. Ma non è la stessa cosa, non sono animali, non sono animali, basta. Tu sei un animale come gli altri. Ma non sono come una nutria, non sono come una, anche tu non sei come una nutria. Se ti senti come una nutria è un problema tuo, è un problema tuo. Vai su Google e scrivi, giorno verrà Leonardo da Vinci, così forse impari qualche cosa. Vabbè, ciao, Mauro da Vicenza, vai Mauro. Buonasera. Vai, dimmi Mauro. Ok, ho detto una cosa, vogliamo difenderci dall'ISIS, no? Ma se non siamo stati vogliamo difenderci, non ho capito. Dall'ISIS. Anche da califfato là. Sì. Siamo stati capaci di difendere la fontana di Santa Arcaccia. Sì, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi questa cosa, l'abbiamo già detto. Cosa voglio dire, ma lui stava bevendo. Quel Matteo lì di, come si chiama? Sì, il Bozzano delle nutrie, no? Che vuoi dire? Che se ne può di casa sua dentro, si crea mangi lui, no? Che cazzo la fai delle nutrie? Si devo ammazzare tutte le nutrie. Ma tutte ammazzare così? Sono 20 danni. penso che fanno solamente danni alle nutrie. Scusi, lo amico mio, lei ha mai pensato... Amico mio, mi scusi, lei ha, sì, caro, lei ha mai pensato di telefonare, che so, anche a Forum, a Focus Economia, ad esempio? No, perché? No, chiedo perché con questo. Perché chiami ogni tanto lì da Barisoni e dici: e ora come mettiamo qua questa storia dei bot, bond e 007? Ma come mettiamo? Io ti dico una cosa solamente: ecco. Le nutrie fanno veramente danni. Le nutrie. Non sai, basta, no. Chiami da Barisoni, basta. Mi sono stufato. Vabbè, di Gabriele da Roma, vai. Gabriele basta. Da Roma, vai. Scusami, Pronto. Dimmi, Gabriele. Voglio vedere il nostro Sebastiano come li tratta, se lo chiama sulle nutrie. Su Gino Paoli di prima, 30 secondi. Se no. Sì, dimmi, dimmi. Giuseppe. Io una piccola condannina a 15 anni gliela darei. A chi? Ma no. A chi, scusa, a chi? A chi, Gabriele? A chi, bisogna dare una condanna niente. Di 15 anni? A chi? A Gino Paoli. Ma così? Ah. Cioè, ma lo decidi tu che deve essere condannato a 15 anni? Abbi pazienza, chi lo decide? A Gino Paoli tu non daresti 15 anni, Giuseppe? Ma io non lo so dare 15 anni per che cosa? Per le canzoni che ha fatto? Non credo. Per che cosa? No, assolutamente. Per che cosa? Che ha fatto forse coprirebbe la pena, però se... Per i soldi svizzera? Bravissimo. Ma i soldi... quella ancora siamo... Cioè, non è stato provato nulla ancora. Certo, ci sono le intercettazioni che sembrano incastrare il signor Paoli, però sai, come dire, delle intercettazioni abbiamo, no? Beh, io mi fido molto delle intercettazioni, però vabbè, d'accordo, ma non gli possiamo dare 15 anni in due giorni, insomma, caro Gabriele. Cioè, certo, secondo me 15 anni in due giorni, io appena di 15 anni non la darei per nessuna evasione, la darei ai comunisti che evadono il fisco. Ai comunisti, c'è cioè una pena in più per i comunisti. Esatto, benissimo. Comunista. Tu sei, diciamo, lui è stato, cioè, moralista musica. Contro Berlusconi, contro i furbi, eccetera, eccetera. Ma l'antiberlusconismo non è mai comunismo, perché il percepito. Vabbè, quello che è, cioè, tu daresti una pena in più in quanto comunista ed evasore fiscale. Un comunista che profeta sì. Quel tipo di ideologia. Professa al massimo. Sì. Professa, certo. Sì. Profeta è un'altra cosa. Quel tipo di ideologia e va. 100.000, 1.000.000, 2.000.000. Deve essere punito di più rispetto agli altri. Deve prendersi 15 anni. Devi prendersi 15 anni. La particolare teoria del signor Gabriele, sì, da Roma. È comunista, certo. No, vabbè, ma io non... No, io no, ma a te ti fa incazzare il fatto della, come dire, del moralismo, di quello che ha sempre detto Gino Paoli. Fa incazzare anche me, eh. Fa incazzare anche me, assolutamente. Sì, ma guarda, io non mi vergogno di dire che sono fascista. Beh, perciò. Amico mio. Ecco, dovresti vergognarti fascista. Invece. No, assolutamente. Dovresti anche vergognarti. In Italia, grazie a Benito Mussolini, non me ne vergogno. Sì. Dovresti vergognarti, ma ormai che. Ma che c'entra questo con Gino Paoli? Scusa, cosa c'entra con Gino? Io ho detto queste cose soprattutto perché mi rifaccio alla mia ideologia. Sì, ma ho capito che c'entra Gino Paoli in questa vicenda. Scusa, tu potrei pure dichiararti fascista, ma questo che c'entra con Gino Paoli? Questo è da capire. Sto dicendo, io darei 15 anni a Gino Paoli perché. Così, ma perché proprio 15? Scusa, perché non 13 e nemmeno 17? Perché si dichiara fascista? Ma perché. Non lo so, 15 anni forse gliel'avrebbe dati pure Mussolini. Vabbè, siamo alla follia. Gabriele, arrivederci. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, vogliamo far risentire la frase di Renzi dall'Annunziata su Gasparri? Sì, sì, e risentiamo, sì. Dai, forza. Una cosa che è il motore dell'identità educativa e culturale non può essere normata da una legge che si chiama legge Gasparri. Per definizione, se è identitario, educativo e culturale, non può essere basato sulla legge Gasparri. La detto devo questo, riprendere perché non si può dire una cosa del genere. È offensivo questo, quello no, che per quale dice motivo? Di io ritengo, Gasparri. Ma no, ma che offensivo? Vabbè. Allora, volevo far notare a Maurizio Gasparri, che saluto, buonasera. Buonasera a lei. Allora, volevo far notare a Gasparri che persino l'Annunziata, che con Gasparri non ha un rapporto, come persino dire, persino Parenzo, figurati. Idilliaco, ti ha difeso, Maurizio. Come la mettiamo? Ma io conosco Luciano Annunziata da molti anni, abbiamo avuto una forte dialettica spesso, lei ha fatto molte cose nella vita, anche il presidente della RAI, una donna della sinistra, però certo. Ha rilevato il tono offensivo, ma direi stupidamente razzista di questo giovanotto. Razzista addirittura? Farà... Adesso razzista, sì, no? Certo, insomma, perché quando uno dice quel nome non si può accostare alla identità, alla cultura, è una cosa razzista. Scusa, cos'è il razzismo? Direi che una persona che è un essere inferiore. Ha fatto una battuta infelice, No, ma l'ha detto più volte, perché l'ha detto anche prima di andare dall'Annunziata, lo ha detto stamattina, più o meno con le stesse parole, alla riunione del Partito Democratico sulla scuola, perché lui poi si ascolta questo giovanotto, no? Sì, che è un poveraccio oggettivamente. Come e quindi gli piace fare queste cose, perché privo di contenuti, molto capace a stare sulla scena, destinato a glorie nella Isola dei Famosi del Futuro, nella conduzione di quiz, perché è tagliato per questo, tu dici? Ha questo gusto di sentirsi dire delle cose strane. Un personaggio che ha fatto fare l'insieme del trading col decreto sulle banche popolari su cui stanno indagando, la Cons. Vabbè, ha fatto fare, poi ha fatto fare. Questa è un'accusa gravissima dal punto di vista politico. C'è un'indagine su questo insider fatta dalla Procura di Milano, dalla Procura di Roma e dalla Consob. E la Consob è andata anche in Parlamento a parlarne. Se non si fosse fatto in maniera sbagliata questo decreto, tutto questo movimento non ci sarebbe stato. Ma però lasciamo perdere adesso la questione dell'insider trading. Tu hai parlato di razzismo. Razzismo, che vuol dire razzismo? Cioè, quasi da legge, quasi da legge Mancino. Quasi da legge Mancino, ti dici. Ma no, ma che legge Mancino? Mancino si occupa di tragedie grandi. Cioè, una forma di razzismo stupido di questo signore che quando avrà letto un libro potremo fare una discussione sulla cultura. Cioè non ha letto mai un libro secondo te? Renzi legga un libro a vita, ogni tanto finge di comprare dei libri, vada Feltrinelli, è vero, va là ogni tanto li prendere dal telegiornale, non li leggerà, dice, non li legge, ma dice, ma che ha comprato, li prende come dire come se comprasse delle saponette o della schiuma da barba. Quindi non è che sia un uomo che è famoso per una sua sensibilità culturale, per una sua vocazione, vuole cambiare una legge, vuole discutere di un problema e se ne parla, tra l'altro con i suoi uomini di governo, di questi temi stiamo parlando, perché non è che poi la legge Gaspari, voglio anche dire una cosa a Renzi, quando la legge è fatta di decine di articoli. No, però adesso al di là del merito, Maurizio, scusa, il problema. No, ma è merito, beh, lo sappiamo, tu difendi la legge Gaspari che hai fatta, che l'hai fatta tu, ma è normale che sia così. No, la cosa su cui volevo dire una cosa, scusa Maurizio, aspetta un attimo però, cioè Parenzo, su una cosa si può concordare. Il presidente del Consiglio che va in televisione, adesso decide Gaspari pure alla direzione del suo partito, e che se la prende direttamente col vicepresidente del Senato Gaspari, dandogli sostanzialmente dell'ignorante e della persona battuta alla Crozza, dai, ha fatto una battuta alla Crozza, ho capito, suo stile, però la stessa Annunziata ha detto, guarda, se uno poi vuole cambiare una legge, dice questa legge mi fa schifo, mi fa orrore, fatto una battuta alla Crozza, dopodiché non è che Gasparri è tenero nelle sue non fa il presidente del Consiglio, però è diversa la cosa, ma anche lui è senatore, questa volta gli è partita la frizione, per usare a Renzi gli è partita però, la frizione, scusa Maurizio, perché te la sei presa col padre? Si dovrebbe vergognare del padre, perché si deve. Perché siccome ha fatto una considerazione di carattere razzista, gli ho voluto ricordare tutte le vicende. Il padre ha indagato, dovrebbe essere per bancarotta, per bancarotta. Vabbè, che c'entra però? Dei rapporti massonici del padre e della famiglia di Renzi, anche perché sono stati smentiti. Allora, lui sta parlando di un solo articolo della legge Gaspari, la nomina dei vertici Rai. Tutto il resto resterà comunque in vigore, ma glielo spiegherà la vigilessa che gli fa da capo dell'ufficio legislativo quando gli spiegheranno la legge. Però chi deve comandarla sta Rai? Il club Bilderberg, il finanziere Serra, la loggetta, le loggettine. Cioè tu dici che le loggettine non c'entrano, però quelle entrano le loggettine. Vabbè, scusa, però tu stai dicendo una cosa, stai dicendo che lui vuole passare dalla. Deve comandare. Quali sono i gruppi di potere? Il Parlamento, per sentenze della Corte Costituzionale, che lui ignora, deve designare i vertici Rai, lo dice la Corte Costituzionale. Quando ho fatto la legge, quell'articolo, vabbè, non ho neanche scritto, è nato dal dibattito parlamentare. Disse, su questo tema noi rispetteremo la volontà del Parlamento. Però al di là di questo, perché quindi, c'entra il padre però, Maurizio, che c'entra il padre? Vabbè, ho capito, ma uno che ti offende in questa maniera va scandagliato nella sua storia personale, nella storia familiare, perché non può pensare che la passa liscia con questa cosa. Io, ma tu veramente lo vuoi citare politiche. Veramente lo vuoi citare in tribunale per questa cosa? Non c'è dubbio. Ma per quale reato? Il reato qual è? Ma è perché c'è una diffamazione fatta in quei termini, poi lo vedrà l'avvocato quali sono le cose da contestare. Però io accetto la polemica politica, anche la più dura, questa prosopopea di un uomo che non ha letto neanche un libro, a mio avviso, e che non ha questo, come dire, livello culturale per parlare con questo tono. Però anche tu attacchi a sprombattuto spesso anche su Twitter, cioè non sei uno di quelli che faccio alla polemica politica. Però tu dici preso da, come il Presidente del Consiglio in televisione. A parte che lui è il Presidente del Consiglio e quindi quando parla ex cattedra in questa maniera dovrebbe poi fare tutte le critiche personali a me, che io sbaglio le politiche, che non gli piace la legge, che va a cambiare. Non può dire che per definizione quel nome non va bene, non se lo può permettere, e questa cosa... Cioè, dice, ha offeso gli daremo tanto di quel filo da torcere, se lo sogna lui e tutta la sua situazione. Sì, pure a Berlusconi glielo devi dire, però, Maurizio. Ma guarda, Berlusconi c'ha tanti problemi da affrontare, quindi noi questa battaglia la puoi interpretare come una cosa alla Crozza, questa roba qua che ha detto. A me mi capita che Crozza mi dica delle cose tremende. Crozza fa l'attore comico ridendo, dice anche ovviamente delle cose che possono avere un valore politico, ma fa un altro mestiere, fa il comico. Ma anche Gasparri fa delle battute ogni tanto. Ma non vuoi chiedere scusa al padre di Renzi, che si è sentito un po' offeso? Che cosa? Ha detto che si deve vergognare, che è un massone, non è provato che è un massone. Ma perché si vergognano che sono massoni? Non è provato. Io non ho nemmeno un pregiudizio. Ma dicano, dichiarino, non siamo massoni, che non è massone, lo dicono tutti. Che siamo ma l'ha detto più volte, ma più volte l'ha detto di non essere, che non di non avere nulla a che fare con la massoneria. Tutto. Il padre di Renzi? Sì, più. Va bene. Beh, tu gli hai dato figlio di un massone, hai parlato di che uno è massone non è di per sé una diffamazione, perché se uno non commette reati può anche essere massone. Io non lo sono, ma se uno non commette nulla di illecito fa, si vergogna di questo fatto. Mi pare poi molti massoni devono smentire per obbligo la loro appartenenza. Devono smentire per obbligo. In genere c'è questa regola, ho capito in tanti casi in cui gente. Però anche quando lui ha detto che si deve vergognare del padre, adesso uno nella polemica d'accordo che uno. Certo, perché lui si è posto come un parametro del giudizio della dignità delle persone. Cioè, ha offeso la tua dignità personale. A questo punto ognuno si guardi i fatti suoi, i problemi suoi, no? Compreso. Scusa Renzi, ad esempio, no? Poco prima di essere eletto presidente della provincia, quando già si sapeva che sarebbe stato eletto, ha avuto un'assunzione da dirigente nell'azienda di famiglia, solo per avere probabilmente dei vantaggi dell'uso della legge che c'era all'epoca, dei contributi che vengono dati in proporzione ai carichi di lavoro. Che c'è stata una polemica su questa cosa. Lui l'hanno assunto come dirigente con un nuovo contratto poche settimane prima. Quindi la sua storia è anche molto, come posso dire, frammista, siccome lui ci tiene tanto a questa sua purezza, e fra me sta anche interesse. Cioè, non può fare, tu dici, il moralista su questa cosa qua. Il primo della classe fa quello che dà la lezione. Ma ti sei veramente incazzato su questa cosa? Ma l'hai sentito? Offeso, mamma mia. Ma l'hai visto in diretta? L'hai visto in diretta o no? Sì, l'ho visto in diretta, casualmente. Quindi hai ringraziato l'annunziata per averti difeso? Alla cosa della mattina che avevo già visto casualmente su Sky. Poi ho visto l'inizio del programma dell'annunziata, quindi avrà per focaccia. Ma hai mandato un sms all'annunziata così? Per grazie, mi difeso. No, non gliel'ho mandato un sms all'annunziata, anche perché l'annunziata dovrebbe per par condicio consentire a chi ha regolato per legge con il consenso del Parlamento quelle materie. No, ma dovrebbe ospitarti per par condicio, secondo te? La logica della correttezza lo vorrebbe, ma Lucia, siccome è una militante politica, glielo dico con simpatia. No, ma chi viene dalla politica? Che è un giornalista. Berlusconi che lasciò uno studio. Non lo farà. Ha passione, no. Lei è una militante politica. Ma è una giornalista di una correttezza rara. In questo caso, non esageriamo. È di una correttezza rara. In questo caso ha detto, insomma. Gasparri, questo non si può dire, però. Aspetta. No, voglio dire a Gasparri questo, scusa. Ma che vuol dire che lui pensa che non sia corretto? Sei una militante e no, tu pensi che sia ragionare. Io penso che sia una giornalista di una correttezza rara. Ma la dialettica che ha utilizzato nell'intervista con Renzi è lì a dimostrare la stessa che ha utilizzato quando Berlusconi era presidente. Questo dimostra la correttezza di un cronista. Comunque, che magari avrà le sue idee, ma ha usato la dialettica che ha sempre usato. Quando l'annunziata ha detto quella frase, voi non avete trasmesso l'audio successivo, Renzi aggiunge: oh, si offenderà Gasparri al massimo. Quello è stato ancora peggio. Quando hanno detto lei sta offendendo, lui ha detto si offenderà al massimo Gasparri. All'annunziata, per me, considerarla una militante politica non è mica offensivo, per me essere un militante politico mica la considero una qualifica offensiva. Ma non è sarebbe così. Ridicolo che Lucia si definisse indipendente perché ha una sua posizione, ma avrà le sue idee, ma nel suo lavoro usa lo stesso rigore per tutti. Nel ma suo lavoro essere militante politico non è mica un'offesa. Ma no, ma la... è una constatazione. Discrediti il suo lavoro, però. Politica. Discrediti il suo lavoro in questo modo, perché invece la correttezza che ha utilizzato con Renzi è la stessa politica. Con Berlusconi, la dialettica, incalzare l'ospite. Ma non è così, no, vabbè, dai, no, non l'ha incalzato. Ma in questo caso io sono indignato con Renzi. Lui si è annunziato a fare la sua attività con le sue idee, con la sua tendenza, lo sappiamo tutti. Vabbè. Quindi. Ciao Maurizio, a presto, ciao, ciao. Ciao. Saluti, saluti. Ritengo la mia visione, identità, educazione e cultura di questo paese sia diametralmente opposta di quella del senatore Gasparri. Magari si offende lui. Io non mi offendo, è la verità, quindi lo ridico. Qual è il punto centrale? Allora, Normanno, provincia di Teramo, vai. Sì, buonasera signor Cruciani. Dimmi, buonasera, vai. Signor Parenzo. Niente, volevo dire, io sono pienamente d'accordo con quello che dice Sgarbi. Ma su che cosa? Su che cosa? Sul sesso delle donne. Ma che dice? Dice tante cose. Sì, vabbè, io sono quasi sempre d'accordo con lui. Allora? In questo caso è una questione culturale. Mm-hmm. Che chi lavora con le mani fa l'operaio e fa un lavoro manuale, chi lavora con la testa utilizza la propria intelligenza per fare un altro tipo di lavoro, chi lavora con i piedi e chi lavora con la fica, dici tu? Bravo. Ma io sono d'accordo assolutamente con te. Io penso che ognuno sfrutta quello che ha. In questo caso le donne, ma io l'ho detto più volte, sfruttare le proprie qualità fisiche, il proprio corpo è un... Anche le mani sono delle qualità fisiche. Ma le mani, sì, certo, le mani, eccetera, e anche gli organi genitali, sfruttarli per farsi largo, per così, io lo trovo assolutamente legittimo. Assolutamente legittimo. Solo purtroppo che... Parenzo ammutolisce di fronte a queste cose, ammutolisce. No, ma io sai come... Ma no, io non sono moralista. A 39 anni, ha preso la patente a 39 anni. Vorrei sapere da lui se è stata una libera scelta o proprio se veniva bocciato ripetutamente. No, non sono, è la prima volta che sostengo l'esame, sia scritto che di pratica. Sei stato bocciato però alla pratica una volta, no? No, no, non l'avevo mai fatto. Sei passato sia no, questa volta qua, non sei stato bocciato, no? No. Sei stato promosso alla prima botta? Sì, ho fatto tante ore di guida. Ore di guida? Sì, questo sono duro come le pine verdi, ma ho fatto tante ore di guida e questo lo posso dire. È cosa pazzesca, dai. Solo tu a che età hai preso la patente? Mica 18 19, anni. No, mi risulta che l'hai presa molto più tardi. No, guarda, dopo verso adesso il trentello. Lo faccio vedere, guarda. Verso il trentello l'hai presa anche tu, caro. A parte che guidi come un cane, che la volta che sono stato in macchina con te mi sono fatto il segno della croce per non credere. Dunque, guarda, è stata emessa dal prefetto di Roma il 7 novembre del 1995, dunque stiamo di parlando. Roma, Bella storia lì. Vabbè, dai, a dopo, dai. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, Ormai è tutto degradato. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. La storia di Pannella e dei suoi figli. Risentiamo tutto, dai, chi mi conosce sa che ho qualche figlio in giro. Se potevi fare un figlio, ti manca un figlio? Io? Ah no, dicevo quello no. Beh, devo dire semplicemente. Ti è mancato, ti manca. Che coloro che mi conoscono sanno che qualche figlio c'è in giro. Ah sì? Ma non si è chiuso il Charmaso. Uno o più d'uno? Quello, questo è uno. Quello siamo sicurissimi. Un altro non sono sicurissimo che era mio, non del marito. Ah, ecco. Poi altro non so. E dove vivono? Qui in Italia stanno? Sì, ma dove vivevano? Perché poi ho perso pure di vista, insomma, completamente. Quindi non hai contatti con... No, l'ho avuto per i primi anni, dipendeva dalla madre. Perché in un caso... Però è tuo figlio? Sì, no, la madre lo sapeva, ma suo marito credeva che fosse suo. Ah, ecco, c'era questo piccolo, per esempio. tu la sapevi dall'inizio. Sì. Certo. No, a parte dall'inizio, certo, dico, da quando ma stimavo molto la persona. Era napoletana ma col cognome francese, perché allora erano i resti. Quindi era a Napoli questo figlio? No, perché la madre appunto era a Roma, perciò insomma. Ragazzi, detto con tutto rispetto, qui siamo veramente alla fine di tutto, Ma perché la fine? Ma la fine di tutto, da uno che comincia a raccontare. Ma dove di avere lo trovi avuto un leader? Appunto. Ma quale leader? Di cosa? Leader di che? Di cosa? Del nulla. Leader del nulla. Leader del nulla. No, sei del nulla. Sei, no. Dai, tutte su le battaglie che ha fatto. Ma che per il divorzio, basta, l'aborto, l'obiezione di coscienza, i Falun Gong. Comunque, i Falun Gong. Comunque, noi siamo alla ricerca. Noi siamo alla ricerca. Tibet libero. Degli eredi di Pannella, degli eredi segreti di Pannella, si facciano avanti. Ehi, dico a te. Sì, proprio a te. Sei convinto di sapere chi è veramente tuo padre? Magari guardandoti allo specchio hai notato una curiosa quanto straordinaria somiglianza con Marco Pannella? Inoltre, combatti da una vita contro il catarro, hai fame perché digiuni spesso? E allora potresti essere proprio tu, uno dei due fortunati figli segreti di Marco Pannella. Chiama immediatamente La Zanzara al numero verde 800-24-0024 e cambia radicalmente la tua vita. Questo qua è un grande appello, grande appello. Michele, provincia di Milano, vai. Michele? No, ciao Giuseppe, sono Michele, la provincia di Milano, Colonia Monzese. Dimmi. Siamo Michele. Vabbè, non si sente niente. Mario Milano, dai, Mario. Io sono commercialista. Richiamatelo, vai Mario, dimmi. Ciao, sono commercialista di Milano, ho sentito le allucinanti dichiarazioni di Red Ronnie, trovo veramente ridicola questa cosa. Io mi occupo di volontari, di queste cose qua, e secondo me è tipico di un atteggiamento. Scusa, di una sei mentalità. Non ho capito. Sono un commercialista di Milano, ho ascoltato. Ah, commercialista, ho capito, sì. E Red Ronnie ha direttamente coinvolto la categoria, ma non è per questo che telefono, più che altro trovo allucinante questo tipo di ragionamento, questa difesa integerrima sempre di posizioni allucinanti che secondo me oltretutto hanno portato a un danno al cantante di cui sappiamo, perché è inutile continuare con questa mentalità di voler difendere l'indifendibile. Secondo me ha sbagliato. Ma i commercialisti fanno, nella maggior parte dei casi, fanno esattamente quello che dice un cliente, cioè se commettono degli illeciti. Ma tu hai mai provato ad andare a aprire un conto in Svizzera e non essere tu a doverlo aprire? Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della follia. Guarda, io l'unica cosa che trovo che sia importante in questo momento storico è il rispetto delle regole da parte di tutti. C'è chi ha sbagliato, gli si dà una possibilità con la volontà di mettersi a posto, basta, non è che facciamo una grande polemica, è cambiato il mondo, è giusto. No, ma qui non è tanto la questione di quello che farà Gino Paoli, alla fine chi se ne frega. Ci sono delle intercettazioni che sono incredibili, devo salvare l'immagine, non voglio che si sappia di quei soldi in Svizzera. Sono un personaggio pubblico, non posso rischiare questo, ragione. Ho un'immagine da difendere. Guarda, e le cose che diceva sui furbi, e le cose che diceva su Berlusconi. Ma Berlusconi e sempre tutti gli altri sono sempre tutti gli altri che sbagliano, ma soprattutto per una certa parte politica. 2 milioni di euro. Cioè, voglio dire, punto è questo, ma poi chi se ne frega, ripeto, se dobbiamo credere a quello che leggiamo, ovviamente. Io posso dirti una cosa. Posso dare la buona fede a quello che non sul 11 settembre, quello che diceva Red Ronnie, cioè che spesso gli artisti è vero che si affidano totalmente a commercialisti, a quant'altro che gli dicono ferma. Ma se devi portare un corpo. Però questa è una cavolata, vi pazienza. No, ognuno si fida a un professionista. Io ascoltami, adesso voglio dire, tu hai una persona sana davanti a te, ti dà dei principi e delle indicazioni. Ma tu non andare a aprire un conto in Svizzera, ci devi andare in Svizzera, e quando sei in banca ti dicono il conto è cifrato, non raccontiamoci. Ma infatti non c'è dubbio. Infatti non c'è dubbio, lui ha commesso quando uno, ma poi in questo caso dalle intercettazioni sembra non è che l'ha fregato il commercialista, è lui che ha portato i soldi in Svizzera, dai ragazzi. Ma mi sembra certo. Poi può essere che però gli attori, gli uomini di teatro, di spettacolo abbiano poco dimestichezza con tutte queste robe qui, e magari uno gli dice ti faccio guadagnare, guarda il Madoff, ma no, voglio dire, è una cosa diversa, ma il Madoff dei Parioli, no? Tutti quegli attori, neanche Sabina Guzzanti, se non ricordo. Quella è una cosa diversa, mica la Porfiri svizzera. No, appunto, certo, ma l'idea di far soldi facili, legalmente, lì sono stati truffati e non c'entra nulla perché sono parte lesa, ovviamente. Non c'entra nulla. No, dico l'atteggiamento che spesso si ha nei confronti del denaro da parte delle star o della gente che ha poca cura di questo e non si intende, e io sono tra questi, ad esempio, che ti dicono, guarda, gestisci tutto tu. Io stesso, ad esempio, faccio gestire tutto. Ma se devi veramente portare qualcosa all'estero, la tua firma ce la devi mettere all'assenso. È ovvio, e non lo farei mai. Ovvio. Ma io queste cose le dicevo molto per i clienti. Non è rispettoso per quelli che hanno dovuto pagare fiondate di euro per fare un quadro RV che è complicatissimo, una legge stupida con delle cose allucinanti. Posso dirti una cosa? Dimmi. Io, la prima cosa che ho fatto quando è uscito il libro di Falciani, mi sono fiondato, perché mi piace, perché lo faccio per lavoro, così, a leggere. È interessantissimo, ragazzi. È veramente una cosa da cui bisognerebbe imparare, perché capisci anche come funzionano certi determinati settori, certe determinate cose. Io credo che sia arrivato il momento di mettersi tutti in pace con se stessi. Finalmente oggi hanno firmato questo benedetto accordo, che poi è un accordo che non mette a posto un sacco di altre cose, ma lasciamo perdere. Ma finalmente prendiamo coscienza di noi stessi, perché una persona che pensa sempre, scusate, di inchiappettare gli altri, andare in un altro posto, fare tre passi in là e poter fare tutto quello che vuole, è una persona che non ha ragione, non pensa al domani, perché prima o poi qualcuno ti becca su queste cose, è stupido farlo. Quello che mi piacerebbe facesse, da detto lavoro, invece il nostro fisco, che finalmente aprisse però, desse una contropartita, perché sai cosa mi dà fastidio? Tante volte faccio convegni con degli amici svizzeri che spiegano come funziona in Svizzera. La prima cosa che mettono su una slide, sai qual è? Lo Stato per me è un amico. Cosa che noi non riusciamo a fare. Ah, no, questo non c'è dubbio. Ma ti sembra che le nostre aziende non possono fare business con le aziende, per esempio, di Dubai, per una roba? Non partiamo sempre perché per essere dei delinquenti, ma dobbiamo fare business anche noi. Da là in Svizzera ci hanno la pancia piena, ci prendono per il culo, scusate il termine, e noi dobbiamo stare a mille lacciuccoli d'accetti. Finalmente, posso dire una cosa, finalmente anche loro avranno reati di autoriciclaggio, di riciclaggio e quant'altro. Ed è giusto che in questa competizione sia per tutti i paesi uguale. Non posso accettare che vada. Va bene, abbiamo capito, adesso non andiamo al di là di questa cosa, sennò diventiamo Focus ragazzi. Economia. Ciao Mario, Mirko Torino, vai Mirko. Beh, Mirko, vai. Dimmi. Senti, io volevo ritornare un attimino sugli scontri di Roma. Che mi vuoi che dire? Che sono successi a Roma. Ti voglio dire, come ma a parte sono contento che abbiano devastato tutto quello che è successo, perché i romani, soprattutto gli italiani, se lo meritano. Oh, questo è un bene, cretino. Mirko! Cretino compatente. Cretino se lo meritano perché gli italiani siamo una massa di coglioni. Sì, sì. I romani sono più coglioni degli italiani. Certo. Ma come, perché, ce come mai? No, certo, lo dico così, per ridere. Tutte le sinagoghe erano protette, una sinagoga era protetto. Quali tutte? Che c'entra? Che Piazza di Spagna e tutte le altre erano scoperte. Come che c'entra la sinagoga? Questa. Che c'entra la protezione delle sinagoghe con la protezione di Piazza come di Spagna? Perché non sono andate alle sinagoghe? Ma perché devono andare alle sinagoghe? Che scemo è questo? Perché non potevano andare alle sinagoghe? Cioè tu dici troppi poliziotti a protezione delle sinagoghe e pochi a protezione dei monumenti, questo vuoi dire? Bravo, vedi bravo, che bravo un cazzo, bravo. Bravo. Ma perché gli dici, ti fai dire bravo da questo mentecatto? Vedi che mi capisci quando vuoi. No, non capisco Mirko, cioè non capisco. No, devi capire. Ma cosa devo capire? A Roma non c'era nessuna, Roma era sguarnita, per colpa la sinagoga, il quartiere ebraico era protetto. È giusto? Allora cosa significa? Che gli ebrei sono protetti e i romani no. Cioè, siccome i romani sono romani, imbecille di un imbecille, devono pagare. Ma guarda che e gli italiani dietro di loro. Cioè tu stai dicendo perché una cosa, ma gli ebrei sono romani, imbecille di un imbecille. Quelli che non sono altro. Ebrei, quelli sono ma quelli sono romani, Mirko, quelli che stanno lì al quartiere. Non sono, cioè sono ebrei di religione ebraica, ma sono romani. Come tu si ho capito, ma come mai vengono ma cosa c'entra? Salame d'un salame. Ma come vabbè, ma sei veramente come un poveraccio, Mirko, sei veramente un poveraccio qua, se dici, se pensi una cosa del genere, la prova del palloncino prima di metterti in macchina. Ma vuoi smettere di bere anzitutto? Vuoi smettere di bere, ti fa male? Non vuoi smettere di bere? Ma io sono più sobrio di te, pare. No, sembra di no. Vuoi smettere di bere? Ma sono più sobrio di te. Non metterti al volante. Sono a casa. Vabbè, Mirko, ciao, meno male, Enrico da Milano, vai. Enrico da Milano, vai, Enrico. Enrico, dimmi. Io volevo parlare dell'intervento di Red Ronnie, il quale ha parlato ha farneticato sui complotti, io posso capire il discorso amicale come lo fa Grillo e come giustamente l'ha messo in evidenza lei, sì. Però vorrei anche mettere in evidenza che la CIA è fatta soprattutto a favore dei grandi autori, e sicuramente una cosa che sta facendo molto bene Gino Paoli, continuando nella politica di portare via ai poveri, cioè vabbè, adesso non parliamo di quello che sta facendo Gino Paoli, sia che non ce ne frega niente a noi, Enrico, non ce ne frega niente. Allora tu sta è ripartito dalle considerazioni di Red Ronin. Secondo Red Ronin c'è stato una specie di complotto contro Gino Paoli, questo, ordito dalle multinazionali, cioè, questo è il punto. La verità è che non esiste tutto questo discorso, perché certo che non esiste, secondo me, non c'è dubbio. E non solo, ma c'è una verità che la CIA ha, per esempio quest'anno ha raddoppiato il contributo, sì, però, perché evidentemente ha dovuto coprire una serie di ruberie e di perdite che sono state fatte. Vabbè, d'accordo, però adesso non entriamo nel dettaglio di quello della CIA, cioè, però, veramente non è questo il punto. Tu non credi che ci sia un complotto? No, il complotto è una cosa che assolutamente è, come sempre, quando uno vuole cercare di buttare per aria un'argomentazione quadrata, cerca sempre di trovare il complotto, come sulla storia del... Ho capito perfettamente. Sun beat down. I had the radio on. I was driving. Ogni ascoltatore è prezioso, caro Parenzo, no? Anche se noi non facciamo sconti a nessuno, ce ne fottiamo. No, ce ne fottiamo di lisciare il pelo. Però mi ha fatto piacere che durante una trasmissione di Radio 1, che ogni tanto sento la sera quando torno a casa, quando faccio tardi, soprattutto quando lavoravo a Mediaset e facevo lo sport, ogni volta accendevo Radio 1 a mezzanotte e mezza, a l'una, mi ricordo, e c'era una trasmissione che si chiama Brasil. La mettevo perché mettevano della musica brasiliana fantastica. E qualcuno mi ha segnalato che c'era ospite l'altra sera Bobby Solo, ieri sera sarà, anzi, Bobby Solo, il quale ha detto che ascolta la Zanzara, grandissimo. Signor Bobby Solo, sentiamo. E guarda, io sono sincero, sì, io ascolto molto Radio Radicale, Radio Sì, vabbè, non facciamo gli spot. Ti prometto che da adesso mi convertirò. Grazie. Perché a 70 perché... anni ti puoi pure convertire, Bobby. Perché? No, perché Radio 24 c'è sta Crociani con la Zanzara, per sì, favore. Ma noi le zanzare qua a Saxa ce le abbiamo, ma le uccidiamo con i prodotti chimici, quindi stiamo tranquilli. Ti aspettiamo. Grandissimo Bobby Solo, grande, un grande con quell'altro. Cos'è che sta storia? Con Max, che quello che uccidono le zanzare. Ma no, ma quella storia è una facile ironia sulla questione, sì, della zanzara. Giusto, è anche giusto. Ma sì, ma giusto. Se la poteva cavare meglio, diciamo, no? Da questa cosa. Beh, poteva dire sì, vabbè, beh, ma insomma, quando uno dice una cosa del genere, anche se è una radio con, tra virgolette, concorrente. Ma poi concorrente, ma di che stiamo parlando? Qui non esiste nessuna concorrenza. Luciano da Milano, dai, Luciano. Condoglianze alla concorrenza, no? Ma no. Vai, pronto? Luciano, vai, dimmi. Ciao, io telefono per una richiesta. Dimmi. Vorrei che prendesse in considerazione l'idea di fare un album di figurine intitolato I miti della Zanzara. Non, potrebbe essere una buona idea. Un album non di i vostri, mi raccomando. I miti. Beh, allora non ci rimane nessuno, rimane vuoto. No, perché se vuoto. I vostri poi magari se ne andranno. No, lascia perdere Parenzo, che tanto è un distruttore. Buon anno. Cioè, no, senza mostri che viene fuori, chi c'è? Ma stai zitto, non capisci? Vai, Luciano, allora i miti della Zanzara, certo, una buonissima idea questa qua. Gli omofobi, sono tanti, il signore dell'urinoterapia. Beh, sono un po' mostri, sono un po' mostri, sono un po' freaks, sono un po' freaks. Noi siamo ascoltatori, a volte ci piacerebbe vedere le loro facce, no? Beh, ma tanto tutti le conoscono, comunque non è una cattiva idea. Un album di figurine con i mostri o miti della Zanzara. Come quello della Panini, addirittura. Sono le 24 ore, ma io scambierei volentieri. Caro Luciano, tante cose si potrebbero fare. Fammi stare zitto. Allora, devo dire la verità, Parenzo. Altra figura di cacca che abbiamo fatto sulla vicenda degli olandesi, il sindaco Marino, devo dire in alleanza con quello di Rotterdam, forse prima Marino, però propongono, aveva proposto Marino una partita di calcio, Olanda-Italia, per risarcimento, no? Con incasso per risarcimento. Una cosa ridicola, ridicola, ed è stata idea bocciata dalla federazione olandese, Ma poi, scusa, avrà ragione Vittorione. Io vorrei risentire quello che ha detto Vittorione Sgarbi venerdì, no, ma dopo, dopo un sopralluogo. Rimane... Ma sì, ma il danno morale chi se ne fotte? Il problema è il danno, la pulizia, tutto quello che vuoi. Certo, però certo. Ha ragione o no, Vittorio? Qualcuno ancora deve spiegarla questa cosa. Ha ragione o no, Vittorio, che di queste cose si intende a dire che alla fine questo disastro è roba dal punto di vista monetario, dal punto di vista dei soldi, dei danè, è poca roba. Le stuccature sono state fatte, le 110 stuccature, piccoli interventi, come se tu hai un intonaco di casa tua, c'è uno che ci vomita sopra, lo pulisci, cosa costa l'operaio? Io pago l'operaio, pago la stuccatura che è già finita e la fontana in questo momento è meglio di prima. Danno materiale 2000 euro, li pago io. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, beh, una persona che oggi è sulle prime pagine di vari giornali, una famiglia che è sulle prime pagine di vari giornali. Pensavo il ministro Poletti. No, ma che ministro Poletti, ma che ci frega? Stiamo parlando dei Savoia, perché come sai... Che è non stato... sono i biscotti. No, non sono i biscotti, è la casa reale italiana. No, beh, certo. Un po' di tu rispetto. Sei monarchico? Un po' di rispetto. Tu sei monarchico? No, non sono mai stato monarchico, devo dire la verità. Avevo una famiglia, molto monarchica. Sì, molto monarchica. Vediamo. Anche fascista, no? No, quello mai, democristiana, tutti erano fascisti durante la guerra, pare. Tutti, moltissimi. A casa mia, pazienza, chi se ne frega. Non è che tutti quelli che erano stati fascisti durante il fascismo sono dei figli di puttana, scusami. Come, scusa? No, non sono tutti figli di puttana. Non ho sentito. Non sono tutti figli di puttana quelli che furono fascisti durante la guerra. No, ti voglio ripetere che io sono stato, non sono mai stato monarchico perché sono nato nel 1966. Se tu nasci nel 1966 sei monarchico, c'è qualcosa che non ti funziona nel cervello, secondo me. Cioè, monarchico in Italia, sto dicendo, nel 66, però, per carità, va bene anche quello. Ti sto dicendo semplicemente che a casa mia mio nonno era fortemente monarchico e votò a favore della, del referendum. Il mio bisnonno ha lavorato per la Casa Reale, figurati. Al referendum votò a favore della monarchia, per esempio, mio nonno. A favore della monarchia, assolutamente, ma moltissimi a casa mia erano monarchici e sono rimasti. Mio trisavolo era avvocato della Casa Reale, ad esempio. Ma sono rimasti, sono rimasti monarchici anche dopo. Quando... questo è strano. Ma no, ma questo non è strano. Un sacco di gente. No, ma va bene. Pensava, per esempio. Io, ti ripeto, Cesare Parenzo è stato avvocato della Casa Reale nel 1000. Adesso stiamo derapando, 860. Stiamo derapando. Che cosa è successo? Che Vittorio Emanuele di Savoia, cioè il re sostanzialmente, il re, l'erede, eccetera, eccetera, è stato risarcito con 40.000 euro per aver fatto 7 giorni in carcere a Potenza dopo essere stato accusato dal signor Woodcock, signor Woodcock, già soprannominato in un altro modo dal nostro Riccardo di Roma, poi lo rimetterei anche in onda. Anche da Cossiga più che altro. Anche da Cossiga in un certo modo. Più che altro. Per una serie di reati pazzeschi. Era, che mi ricordo, associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso. Emanuele Filiberto è con noi, buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao, come stai? Come stai, caro? Sto bene, e voi. Noi io t'ho visto alle notti sul ghiaccio, è una cosa pazzesca, Ormai visto pattinare. Ti ho visto pattinare, ormai fai qualsiasi cosa, Emanuele, cioè, vabbè, comunque se uno si diverte, ma chi se ne frega, dai. Che o no? Fare? Ma sì, va bene. Hai capito. Ma certo. Scusa un attimo, questa cosa qua. Allora, sei stato contento di questa sentenza? Beh, sì. Ma sì, sono stato contento perché è una sentenza, diciamo, è tutto un processo che ha durato quasi 9 anni. Non dimentichiamo che che 9 anni fa papà fu preso alla frontiera svizzera, portato giù a Potenza e lì fece i suoi giorni di carcere, un mese di arresti domiciliari e 3 mesi di divieto d'espatrio, sapendo che lui non è potuto tornare per 50 anni in Italia. Più tutto questo, c'è stato un sputtanamento sulla stampa mondiale. No. Certo, assolutamente. Ma per cui questi 40.000 euro sono pure pochi, se uno va a vedere proprio, o no? Ma guarda, io credo che è il gesto, è quello che è stato fatto. È importante, diciamo, il fatto che lo Stato comunque ti dia ragione e dica sì, il signor Woodcock si è sbagliato. Però noi parliamo di questi 40.000 euro e diciamo, beh, sono 40.000 euro che pagheranno il cittadino italiano. Sì. Ma non dimentichiamo un'altra cosa, che tutta questa vicenda ha costato, a mio avviso, e ne abbiamo parlato anche con gli avvocati, quasi una decina di milioni di euro. Perché? Allo Stato italiano. E tra intercettato. Ah, tu dici tutta la vicenda. Sì, ho capito. Tutto il processo messo in piedi da Woodcock, che è costato 10 milioni di euro allo Stato italiano. Cioè, ecco. Senti una cosa. Tutto questo per arrivare a un fatto non sussiste e in più a un risarcimento. Io voglio fare una domanda al mio amico, però a Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia. Principe. Mio amico. No, ma però io. Vabbè, adesso non è che uno se ti chiama in questo Piemonte di Venezia. No, perché tu lo pidi per il culo. No, tu lo pidi per il culo. A me è molto simpatico lui invece. No, è tutt'altro. È il numero uno assoluto. Poi gli piacciono le donne, per cui per me è il numero uno. È ironico, è divertente, è straordinario. Voglio chiedere, però, a Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte Venezia, perché di Tre Cruciani non si può dire un cazzo di tutti questi titoli. No, io qualcosa ce l'avevo da parte. No, vabbè, comunque il tuo stemma erano due palle, dai, su. Dai, forza, allora. Sicuramente. Voglio chiedere a Sua Altezza Reale cosa pensa davvero, ma non usi un linguaggio da re, di Woodcock. Ma senza usare però un linguaggio. Sì, questa è una buona domanda, parece ogni tanto fa buone domande. Non usi un linguaggio. Che cosa pensa davvero del signor Woodcock? Mi dica, senza usare un linguaggio reale. Così. Ecco. Come lo direbbe alla Zanzara, diciamo. Cosa penso? Per me è molto difficile perché mi ha colpito in pieno. Non dimentichiamo che anch'io. Come lo considera? Un incompetente? Come lo considera? Un tecnico? Allora, io lo considero una persona che, a posto di voler sempre apparire e fare, diciamo, grossi processi mediatici, farebbe forse meglio di studiare un po' e studiare le carte e forse rendersi conto che quello che sta facendo è una grande stronzata, perché lui se n'è reso conto durante tutto questo procedimento. Sì. E la cosa ancora più vergognosa è che fece mettere le cimici e delle telecamere nella cella di mio padre lì. Sì. Li hanno sedato con pilloloni. Io quando lui è uscito. Come l'hanno sedato con pilloloni? No, ti prometto, non l'ho riconosciuto quando è uscito, per fargli parlare, perché lui sapeva benissimo che non aveva niente dentro, per fargli parlare del processo di Cavallò della Corsica. Sì. Perché lui voleva rifar aprire questo processo sapendo che quello lì che stava facendo dentro, quando era in carcere l'hanno sedato? Drogato. Allora, è stato anche provato perché gli hanno dato dei calmanti, delle cose. Ma tu dici per farlo parlare su Cavallò? Per dopo avevano messo nella cella, e questo lo puoi anche vedere in un video che è stato pubblicato da un altro gran quotidiano, che è il Fatto Quotidiano, video pubblicato in integrale, voglio dire, di un'ambientazione all'interno del carcere, filmato eccetera, dove le persone iniziavano a fargli parlare del suo processo di Cavallò, perché lui voleva farlo riaprire. Lì il governo francese, sapendo tutto questo, ha scritto al governo italiano dicendo: guardi, Vittorio Emanuele è stato prosciolto totalmente dalle assisi popolari francesi, non azzardatevi. Ma scusa, ma allora questo qua come lo consideri? Un pazzo? Cioè un esagitato? Un malato di protagonismo? Ma io non vorrei neanche considerarlo, perché per me è un niente, è il vuoto. Però un mezzo criminale. È il vuoto. Una persona che prende per il culo tutti. È la peggior cosa, è ancora lì a far danni. Non c'è un processo che il signor Woodcock è riuscito a portare. Cosa dovrebbe fare, secondo te? Cosa dovrebbero cacciarlo dalla magistratura? A mio avviso, adesso bisognerebbe pensare se sì o no un PM che fa un errore è personalmente responsabile. Cioè, secondo te dovrebbe andare fuori dalla magistratura, dai, Emanuele? A mio avviso, se eravamo in uno stato, diciamo, un po' di diritto, una cosa così io non l'ho mai vista da nessuna parte. Dovrebbe essere cacciato e dovrebbe pagare lui quel risarcimento che lo Stato italiano dovrebbe pagare. Questo è interessante, dovrebbe pagare lui il risarcimento. Scusa, perché i cittadini italiani devono pagarlo? Per un errore del magistrato. Fermi tutti, questa mi sembra una buonissima teoria. Fermi tutti, abbiamo la pubblicità. Poi torniamo con la volata finale con Emanuele Filiberto di Savoia, che ne dice 4 a Harry John Woodcock, e dice che dovrebbe pagare lui il danè. Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Lo faccio da parecchio. Amici miei! Siamo al top, In diretta con noi! Beh, dire concorrente dello show TV Notti sul Ghiaccio, sì, vabbè, momentaneamente, insomma, per qualche puntata, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha messo... Finché non mi sbattono fuori. Beh, sì, ma chi è la più MILF? Dato che a te piacciono molto le MILF come a me, peraltro, ma chi è la... No. Come no? A me piacciono le giovani, belle, le MILF te le lascio a te, scusa. Ma insomma, le MILF... No, ma come le MILF le lascio? Vabbè, ok, facciamo questa divisione del lavoro. Scusa, ma con tua moglie tu stai ancora insieme, scusa, Emanuele? Sì che sto ancora e che ti dici mi piacciono le giovani come se avessi una vita così ogni tanto ti pizzicano con qualche foto. Dire, io ho sposato una MILF perché mia moglie ha 3 anni più di me, allora se devo scegliere adesso vado su qualcosa di un po' più adesso, no? Andiamo sul più giovane, diciamo. Ma con tua moglie hai un rapporto aperto? Con mia moglie ho un bellissimo rapporto. Ma anche siamo aperto dal punto di vista, diciamo, come io per esempio... Siamo molto complici, veramente. Siamo due persone estremamente indipendenti. Siamo molto felici quando siamo insieme, sì. E siamo molto felici anche quando non siamo insieme. Ma vi raccontate anche i tradimenti? I tradimenti, cioè quando io avete non qualche... Non ho mai tradito. Vabbè, ma si dice sempre così, si dice. Vabbè, ma comunque noi accettiamo anche le ipocrisie. Il mondo è fatto anche di ipocrisie. Ma giustamente il mondo è fatto di ipocrisie, ma io lo capisco, per carità. Quando due persone non hanno un rapporto aperto, io per esempio adoro e sogno un rapporto aperto. Quello cioè un rapporto... E lo sogno, purtroppo incontro persone che sono troppo gelose, questo è il punto, capito? Cioè incontro persone di una gelosia feroce. Io invece, se una persona, se le mie fidanzate mi raccontasse, la mia donna, mia moglie mi raccontasse, guarda, ieri sera mi sono fatto una bella trombata con una persona, mi sono trombato con uno, me lo raccontasse, ma te sei matto forte. Sarebbe eccezionale, guarda, ma che pensa, puoi far passare io sono sicuro, non roba. Lo può dire lui, non lo può dire Emanuele Filiberto, ma non è lo può normale dire. Una roba così, ma io sono sicuro che anche essere lui pensa... cornuto, essere felice. Di essere cornuto è normale? Ma io non lo so. Ma che gli cornuto? Amici di Libero, libero.it, come si chiama lì quel quotidiano lì? Libero.it, fate subito un sondaggio a Cruciani, gli piace le corna. È normale, certo. O non è normale? A me piacciono le corna concordate. Ma senti però. Il principe, scusami, ma essere cornuto e dire anche, oh che bello, sono cornuto, ti piace o no? Ma sono normale io e normale Cruciani, scusami. Ah, principe, aiutami te, no, sul allora, reale. Guarda, io posso anche capirlo, perché nel suo modo non è un modo di cornuto, perché esatto, sono due persone che accettano questo tradimento. Bravo, il cornuto piace così, è la persona forse inconsapevole, certo. Se tua moglie gli fa le corna, diciamo, ma certo, se certo. Piace così, se hai una relazione aperta, non è più, diciamo, nel mondo del cornuto. Esatto, bravo, è nel mondo di un diverso tipo. È sempre corna si chiama, diciamo, però... tutto perché viviamo una relazione aperta, va bene, ed va è bene. Così. Ma tu che non vivi, non hai questa relazione. Io non ho mai tradito mia moglie. Però volevi. Ma non parlavamo del PM. Sì, come adesso torniamo. Ma tu i soldi svizzera ce l'hai? Il cornuto va con. No, con che? Con Woodcock dici? pure cornuto, no? Forse pure... Era un'apertura, non so, era l'intro di quello che stavi per dire. No, e Woodcock hai già detto delle cose tremende su Woodcock. Ho paura di Woodcock. No, perché hai paura di Woodcock? No, no. Perché ti manda un'inchiestina a catena. Ma guarda, che già abbiamo una causa con Woodcock, credo, per una cosa che ha detto qui. Un prete. Sì, un prete no. È venuto qua. Siamo indagati noi da Woodcock. Sì, noi. Sì, sì. Ma noi. Non lo sapevo io. Ma tu non lo sai, siamo indagati da tutti. Ma noi. Tu forse non ti ricordi, ma io in questa vicenda sono stato indagato per pirateria informatica. No, pure tu. Allora, ti giuro, ero indagato per... la cosa strana è che non sono mai stato interrogato, mai stato chiesto di venire, però ero indagato per pirateria informatica. Spiegami cos'è la pirateria informatica. Non lo so, guarda, non lo voglio sapere. Non in voglio quella sapere. Vicenda. Ma anche tutto questo per dire, se mi permetti, perché dimmi. mio padre ha fatto un comunicato stampa. Il re ha fatto un comunicato, sta, sì. Sta poco bene. E ma con la cosa, col timbro reale l'ha fatto? Che ha fatto? Ci ha messo... No, niente, col cuore. Ha detto che era molto felice di quello che succedeva. Però comunque il suo pensiero oggi va... Lui ha avuto la fortuna di potersi difendere. Quante persone oggi subiscono ingiustizie? Vabbè, questo non è hanno normale, la fortuna, non hanno, sì, ma non hanno la fortuna e non scusa, possono... Scusa, ma l'Italia ti deve chiedere, l'Italia ti deve chiedere scusa per quello che è successo? Ma io non chiedo scuse, non voglio... No, io tu, non voglio... tu, l'Italia ti deve chiedere scusa, lo Stato italiano per ma quello perché che... l'Italia? Basta Woodcock, l'Italia ti deve chiedere scusa? Allora, non c'è... Beh, quello rappresenta lo Stato italiano, allora, però io non mi aspetto nessuna scusa, voglio dire... No, perché si è sempre detto, scusami, si è sempre detto, Emanuele, che sono i Savoia che devono chiedere scusa all'Italia per quello che è successo, la guerra, cioè storicamente è stato sempre così, no? O no? Anche io l'ho sempre condannato. Cioè tu non hai mai chiesto scusa? Non hai mai chiesto... No, ho sempre condannato quello che a un periodo sì, certo, vabbè, aveva fatto veramente. Però non hai mai chiesto scusa a nome dei Savoia per quello che è successo, ma, perché non è giusto. Non ho chiesto scusa, perché che cosa c'entro? Io posso solo come essere umano condannare e dire quello che è successo, le leggi razziali è una grande vergogna. E per oggi invece tu dici non lui, è l'Italia dai, che deve chiedere scusa, ma è Woodcock che deve chiedere scusa non solo, ma deve anche pagare, giusto? Allora, a mio avviso, una persona che, voglio dire, un cittadino normale fa una cazzata, ma anche una piccola o più grande, sa che viene punito, no? È punito dalla legge. In questo caso tu dici, ha speso un sacco di soldi, ha fatto spendere soldi. Lui non solo ha fatto spendere un sacco di soldi, ha messo qualcuno in prigione. Poi, ma è pericoloso, secondo te? È un personaggio pericoloso? A mio avviso è un personaggio, io sinceramente non lo conosco e trovo molto pericoloso quel che ha fatto e si è pericoloso che quello che ha fatto. Cioè tu avresti paura di essere giudicato da lui, in parte lo sei stato, pure sei stato prosciolto, ma avresti paura di essere giudicato? Ma allora, se non hai niente, voglio dire, mio padre sapeva che non c'entrava niente, dunque voglio dire, la paura in questo caso non c'è, perché tu sai che hai fiducia in quello che hai fatto, però voglio dire, con i tempi della giustizia italiana è qualcosa che ha durato comunque 9 anni. E io posso assicurare, c'è un Vittorio Emanuele prima della prigione e un Vittorio Emanuele dopo. Cioè, secondo te gli ha cambiato la vita con questo? Ti prometto che gli ha lasciato un segno veramente molto, diciamo. Beh, dunque, ho ragione io a dire che 40.000 sono pochi, in realtà. Guarda, 40.000 sono pochi, come possono essere tanti. È il gesto, tu dici. L'importante è il gesto, e io spero sinceramente che delle cose così non si ripetino. Vabbè. E per non ripetersi forse bisognerebbe smettere un risentimento personale alle persone che aprono delle inchieste e che non vanno da nessuna parte. Grazie Emanuele, dobbiamo chiudere. Ti abbraccio, ciao. Ciao. Vai Piero da Milano, vai. Sì, buonasera. Buonasera, volevo... Dimmi Piero, dimmi. Volevo parlare ancora sulla questione di Gino Paoli. È stato sbattuto il mostro in prima pagina, tutti indignati, sì, giustamente, perché le intercettazioni parlano chiaro di questa storia che ha portato i soldi in Svizzera. Però le intercettazioni dicono anche che i soldi li ha beccati ai Festival dell'Unità e nessuno si è sentito molto indignato da questa cosa. Cioè, di solito, come quando c'è una corruzione, c'è una concussione, quando c'è qualcuno che prende... Ma guardi che non è vero, che non è, allora, a parte che lo dice Gino Paoli e deve essere provato, comunque non è vero che nessuno ha notato questa cosa delle feste dell'Unità, cioè moltissimi hanno scritto... Il mostro in prima pagina è... Ma Gino no, Paoli, il mostro è, allora, se le cose sono provate e c'è una, come dire, e c'è una concorrenza tra c'è un reato fatto, sì, ci sarà un reato fatto sia da Gino Paoli ma anche da chi lo ha pagato in nero, su questo non c'è dubbio. Speriamo, perché a giudicare i giornali cercano sempre di fare notizia alla loro maniera, però insomma, Riccardo, provincia di Chieti, speriamo, lui spera, speriamo che, cosa, spera che sia vero quello che è uscito sui giornali, cioè, ognuno spera che veramente le feste dell'Unità, ma che, di cosa stiamo parlando? Vabbè, Riccardo, provincia di Chieti, dai Riccardo. Pronto? Vai, dimmi Riccardo, dimmi. Dai, buonasera a tutti, è un velocissimo Parenzo, facciamo un gioco di fantasia. Io e te facciamo un salto indietro nel tempo, alziamo insieme con la testa che abbiamo oggi, al 30 aprile del 1945. Sì. Ci informano che Adolf Hitler si è suicidato nel bunker della cancelleria. Cosa fai? Esulti? Qual è il paragone che vuoi fare? Spiegami, Riccardo. Con il detenuto suicida a Milano. Vabbè, ma non è la stessa cosa, dai, su. Riccardo, non può essere uno romeno che ha ammazzato una persona, non può essere paragonato a Hitler, dai, su, che ha fatto il genocidio degli ebrei, il genocidio di tanta altra gente. C'è un'altra differenza, Riccardo, c'è una differenza fondamentale, che il detenuto rumeno era nelle carceri di un paese democratico, ristretto, quello era nel bunker, assediato e per fortuna si è ucciso, sarebbe stato più bello condannarlo in un processo, sarebbe stato più bello condannarlo in un processo, dai, hai detto la cazzata, dai, via. Ragazzi, alle Iene, come sapete, la settimana scorsa hanno ripreso la storia che è uscita qui alla Zanzara di Derry, in realtà da Salerno, che aveva detto delle cose qui da noi sull'Islam, pagherete, eccetera, eccetera. Sentiamolo dalle Iene. Quanto è successo un casino. Lo so. Lui che si professa cristiano. Sono cristiano. Cioè, sei manco musulmano? No. Lo spiega così. Ho fatto finta di essere un musulmano radicale e ho parlato da musulmano radicale. Non essendo musulmano, però, era cercavo di spaventarlo, era uno scherzo. Ma quelli che hanno ucciso in Francia sono dei criminali per te? È una cosa logica. E perché quando Cruciani ti ha detto di che so criminali non hai detto niente? Stavo facendo l'attore, cioè stavo facendo uno scherzo telefonico. È normale che per me sono dei criminali. Allora, la persona si chiama Derry Brito. Buonasera, ciao. Buonasera Cruciani, ti abbraccio forte. Ciao. Allora, io voglio capire una cosa. Tu sei incriminato ufficialmente per che cosa? Per procurato allarme, dimmelo tu. Te credo. No, terrorismo internazionale, minaccia aggravata, perché la redazione di Radio 24 si è spaventata, Radio 24 è Sport 40. Allora, ovviamente c'è un procedimento in corso, io non posso dire nulla di come è venuta fuori questa cosa. La cosa sicura è che io non ho denunciato nessuno. Le cose che avvengono, caro Derry, essendo questa. Mi fa onore. No, ma non è che mi fa onore. Se avessi pensato di denunciare, l'avrei denunciato. Non ti conosco, non so chi sei. Sei venuto alla radio, hai detto certe cose, ma io non ho denunciato nessuno. Poi la polizia fa le sue indagini. Io spero che non si perda tempo, cioè spero che la polizia indaghi e brevemente, in un tempo brevissimo riesca a capire se questo personaggio che è al telefono con noi è veramente un terrorista o ha aiutato il terrorismo, ha procurato allarme oppure no. L'unica cosa che volevo dirti, Derry, è questa: tu hai detto alle Iene, a Enrico Lucci, che lo hai fatto per scherzo, ma scherzare su queste cose non è bellissimo, tu lo sai, cioè non puoi chiamare una radio nazionale e dire guarda Cruciani, amico mio, dimmi. Cruciani, i Berry, o come diavolo si chiama, i Berry che rappresentavo, esistono, vero? A passaporto europeo come ne ho io. Sì, tu sei brasiliano, Ignazio, sei brasiliano. Sì, quelli Berry che io rappresentavo esistono. Io ti dico alcuni fatti che sono accaduti in Italia. Un tunisino sorpreso a rubare il rame, i carabinieri andando a arrestare perché non ha usato i guanti di velluto, lui fece causa e vinse, i carabinieri hanno dovuto pagare 7.500 a quello criminale. Allora? Un libico di merda è andato a spacciare droga, i carabinieri per prendere è stato accoltellato da quel criminale. Ma adesso questo che c'entra? Non mi importa, sorpreso a rapinare, è stato ucciso. La moglie, posso di cubrirsi di vergogna, gli si chiede perdono. Non ho capito niente. A tutto il popolo italiano, per quello che fece mio marito. Ti assicuro, no, non ho capito. Costituisce anche lei. No, però, Derry, allora, scusa un attimo, tu sei brasiliano. Detesto stranieri che fanno atti criminali contro l'Italia. Detesti gli stranieri. Io sono stato accolto dagli italiani, dello Stato italiano. Ho capito, ma chi ti ha fatto fare? Che cazzo te l'ha fatto fare? Chiama qua a dire quelle cose lì. Sono guai, ho perso il lavoro, tanti amici miei codardi. E poi le Iene hanno approfittato un periodo di debolezza mia, perché sono stato sotto torchio da un magistrato, non essendo mai stato davanti a un magistrato. Ma hai perso il lavoro? Hai perso il lavoro? Ho perso il lavoro, la gente non mi chiama, hanno paura di me, pensano che sono criminale e terrorismo. Io detesto. Ma quando hai perso il lavoro? Io detesto perso l'Islam. D'accordo, quando l'hai perso? Una cosa bonda questa parola. No, scusami. Non me ne importa, se sto rovinato, è meglio che finisci di mi rovinare. Visto che la gente si è messo paura di me. Hanno sfruttato mia figlia nella scuola come se suo padre fosse terrorista. Io ti dico una cosa, questo io creerò in Italia la brigata Ostacco in onore da quel grande uomo, perché chi che vuoi fare la brigata? La brigata? La brigata dal mio eroe Ostacco, perché ci sono un sacco di stranieri di merda, non come me, che faccio in bianchino la mattina fino alla sera, a sera mi vengo a casa, mi cambio i figli e vado a vendere carne, vado a fare il cameriere in un ristorante e non riesco a fare alla fine del mese, questi vanno a rubare, capito o no? No, ma ho capito, Derry, io per quanto ti posso aiutare, per quanto è nelle mie possibilità lo farò, però abbi pazienza. Tu non puoi chiamare qui, nessuno, ma non si può scherzare su ste cose, perché non sono terrorista, ho capito, questo lo accerterà la magistratura. Il giornale del mattino ha messo il mio nome e il mio cognome. Quando ci sono gente come quello libico che ha portato il mio carabiniere, che è l'arma che più amo, e sta a piedi libero, hai capito o no? Ma hai perso il lavoro o no? Hai perso il lavoro o no? È normale che la gente non mi chiama per pittare, né Crociani, è normale. Per pittare, cioè per dipingere, capito? Per dipingere. Chi vuole un ma che hanno detto al tuo paese? Al tuo paese lì, che cosa hanno detto? Dove abiti? Che cosa dicono? Hai messo il mio nome. No, ma quello l'ho capito. È stato un capito, pieno, no? È normale che la gente sia tutta spaventata. Ho capito, ma chiama. A Fisciano, a tua figlia a scuola, per esempio, hai detto prima, che è successo a tua figlia a scuola? L'hanno preso in giro, l'hanno preso sul serio, hanno avuto paura, anche le maestre dei miei bambini, ho quattro figli, hanno messo paura, l'autista che viene a prendere i miei figli a scuola, io sono andato a fare una cosa, ho detto Fortunato, era uno scherzo, era spaventatissimo, capito o no? Veramente pensavo che sono un islamico. Ma quanti figli hai? Religioni che ho detesto. E poi, io non ho chiesto perdono agli islamici, ho chiesto perdono a Israele, il paese che io amo, è l'unica democrazia nel Medio Oriente. Ho capito, amico mio, ma chi te l'ha fatto fare? A intervenire alla radio quel giorno lì, che subito. Ma fai a te che fai imita la voce di Benito? Ma io lo faccio, ho capito, ma adesso non paragonare cose assurde. Io sono sfigato, sto passando tutti questi guai, non me ne importa il processo. Io sono nauseato degli islamici. Basta moschea. Perché danno. Noi non abbiamo. Allora, Cruciani, tu non hai diritto di prendere in giro Maometto. Ascolta, tu non Derry, hai diritto. Derry, di però adesso non è che se tu fai l'anti-islamico in questo modo la cosa cambia. Hai fatto la cazzata, non hai fatto mi interessa la... che mi cambi, capito o no? Ma se non c'è più interessa. Lavoro, pigliano per il culo tuo figlio, al paese ti vedono in un certo modo, amico mio, sarà un problema o no? Sono rovinato, non me ne importa che sono rovinato, l'unica cosa che ti voglio dire è questo, esiste un diritto, paese che va usanza che trova, qua esiste l'usanza che Giuseppe Cruciani ha diritto di prendere in giro. Certo. Dunque, Padre Eterno, Madonna, tutti, hai diritto, io non sono d'accordo che sono molto religioso, ma tu hai diritto. Va bene, Derry, ti chiamo nei prossimi giorni. Calmati un attimo, c'è stato un prete che è intervenuto da voi, c'è un gran cornuto, ma tu hai detto che tu sbagli, ma tu adesso non mi devi difendere per forza, Derry. Non ci sto difendendo, me ne fotto pure di te, ma tu stai cambiando presto apparenza. Ci sentiamo, no, un cambio presto. Ma Cruciani che è in te. Va bene, grazie, ciao. Io ti vengo logo, ti spezzo solo la faccia, ma non ti uccido. Solo? Ma no, mi spezzo solo la faccia. Nuda. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ah, oh, disgraziato! Radio 24. La passione si sente.